cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? Ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? E ricordatevi che Metallica è l'unico gruppo al mondo che quando lo pronunci ti viene da dire i Metallica! Metallica! Provate a dire Rolling Stones. Rolling Stone non viene. Provate a dire Iron Maiden, non viene. Invece viene da dire Metallica! I Metallica! Io potevo essere stipendiata. Allora, senti, scusa, io non voglio contestare quello che ha fatto in questa trasmissione, io manco la conoscevo in realtà. Io ti ho chiamato perché la tua trasmissione, io ieri l'ho sentita per 2 ore, mi avete fatto letteralmente cagare. Matteo! Via! Da questo canale! Pochi ma buoni. E sono anche parecchi. Via! No! Sì, io vedo molto negativo. L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Va bene, dai, saluto l'amico mio Manuele che lavora a Citrini. Man coglione sei te, tu sei uno stronzo, peggio perché tu non hai mai indovinato un cazzo. Te vai a baciare i cinesi e c'è stato quello che è successo. Ma questo è un malato di hai mente. Hai fatto una trasmissione con quel rotolo di coppa a Pia de Petto, una romba di 35 anni con 12 figli. Ma sei ma un vergogna, ma sei un malato di mente, sei. Tu sei un pezzo di merda, non capisci aspetta, un cazzo. Aspetta, fermo là, rincoglionito, ma adesso ti mando a fare in culo bene, aspetta. È normale. Barisoni gay. Via Monterosa 91, siamo qui vivi. Applauso, grazie. Dal bunker del Mossad, in via, inizia con la V, però non vi dico nient'altro. Quartiere Prati a Roma, David Parenzo, applauso, vai. Buonasera cari amici, grazie per come al solito. Quando è che dirai cominciamo a chiudere questa trasmissione? Cioè, quando è che no, lo dici? Non l'hai ancora detto. No, sono rassegnato. Sono triste oggi, depresso, rassegnato. Ma da che cosa sei depresso? Rassegnato da quello che ho sentito finora. Urla, grida, questa musica. E so già che mi aspetterà un'altra giornata terribile di questo 29 aprile 2020. Non soltanto per colpa del Covid-19, maledetto lui sia il coronavirus in tutte le sue forme malefiche, ma anche per le telefonate che arriveranno qui, per il populismo che sentirò, per le aziende che contribuirai a distruggere anziché aiutarle. Tutto questo per colpa di populisti e sovranisti come te, al soldo, al servizio della più bieca propaganda internazionale. Da Steve Bannon a Cummings, l'uomo di Boris Johnson, siete la vergogna internazionale. da casa Parenzo, David e Natalia Zevi avvengono anche cose schifo. Belle nella vita. Natalia aspetta una bimba, giusto? Ecco, vedi che sappiamo bello. Già il nome, il terzo. Questa è finalmente una femmina, quindi la chiamerei la terza. Ma ti rendi la terza, conto? Sì. Ma ti rendi? Ma tu ti rendi conto quello che succede in trasmissione sulla Rai? Ma dovrebbero chiudere la Rai! Cioè, ma come ti permetti? Trasmissione in diretta la mattina, agora, la Rai! Che casa Parenzo, aspetta un film, ma che roba è? Ma che roba è? Ma manco... Dai, che funziona, dai che ha fatto ascolto l'altra volta, privato, dai, abbiamo fatto il 9%, abbiamo ma fatto, ma fallo dai. Nascere in diretta la Rai, sta bambina, falla nascere in diretta allora! Naturalmente... Oh, finalmente vedo che naturalmente la mia presenza in questa trasmissione produce naturalmente qualche idea, qualche neurone naturalmente. Potremmo pensare di vendere naturalmente i diritti, sì, molto bene naturalmente. Potremmo vendere il i diritti della nascita naturalmente. Dai, che funziona invece di questi virologi ogni giorno, la protezione civile, ma uno che si chiama Brusaferro, dai, manca il cognome. Ma che roba è? Dai, Brusaferro. Ma chiamatelo direttamente virus allora, dai, che fa più scopo. Brusaferro, dai, ma i nomi, Pregliasco, dai, cioè, dici, ma non si fa, cambiate i nomi, non fa ascolto, Pregliasco, anche difficile da leggere, da pronunciare, i nomi devono essere diretti, brevi, naturalmente, dai, come i titoli delle trasmissioni, Pregliasco, ma che nome è, Brusaferro, effettivamente, Brusaferro, ma uno, come si uno fa, si tocca, ma come tocca. Brusaferro, ma cosa Brusaferro, ma cos'è, ma è Veneto, Brusaferro, dai. Dai, ma non funziona, io lo dico sempre, dai. Ho capito, ma il parto in diretta. Gliel'ho detto, cambiate il nome. Ho detto, quel virologo lì, gliel'ho detto alla Rai, ma come fa? Dice, si chiama Brusaferro. Ho detto, cambiatelo, non funziona, se non si può cambiare il virologo. E allora cambiate il nome. In TV si dice, non si può fare. In TV si può fare tutto, naturalmente. C'è tutto, la fiction. Tutto si può fare in televisione. Basta che funzioni, no? Dai, basta che funzioni. Comunque, ragazzi, è incredibile. Alla Rai... presentano la nuova figlia di Parenzo ancora nella ma pancia che, della madre. Ma non era questo, siete ma non era quello il contesto. Incredibili. Incredibili. Io di, ma perché la Rai consente perché... tutto? Peraltro ma rete, cosa, è, rete ma concorrente. Allora ma... vorrei fare qui un appello ai signori della Sette. Ai signori della Sette. Che era qui presente il signor David Parenzo in diretta alla Rai con la signora Natalia Zevi. La signora che ha presentato di cose private. La cosa incredibile, guarda, incredibile. Io ero là un minuto, mi hanno chiesto una cosa, ho detto sì, eccomi qua, arrivederci. Ma perché non lo facciamo? Non facciamo il parto in diretta. Ma facciamo questo parto in diretta allora, ma sarebbe naturalmente finalmente naturalmente vedo proposte naturalmente concrete di format televisivi. Beh, naturalmente. Fare nascere uno in diretta non è una cosa nuova, ragazzi, oggi beh, abbiamo non si è fatto, due voci fondamentali. La prima è una voce di ieri che c'era un po' sfuggita. Vogliamo però parlare anche di una cosa importante. No, ma senti questa cosa, no. Conte che non dice voglio, chiedo... l'imprenditore Salini, il grande Salini, il costruttore, quello che ha detto per il paese. No, lui non vuole. Conte, chiedo un atto d'amore alle banche. Io dico, ragazzi miei, uno perché si deve incazzare subito? Perché la gente che magari vuole chiedere un prestito sente esatto. la voce del Presidente del Consiglio e dice no, chiedo un atto d'amore alle banche. Un atto d'amore niente. Un atto d'amore alle banche. Un atto dovuto. No, un atto dovuto di ma che c'entra? Ma non detto, d'amore. Il Presidente del Consiglio l'ha detto. Chiedo un atto d'amore alle banche. Hai fatto sbagliare. Un ma atto dovuto, una non vergogna. D'amore. Dovuto. No, le banche non un devono atto niente. Dovuto. Le banche fanno il loro certo, mestiere. Hanno ricevuto. No, devono prestare i soldi perché lo Stato li garantisce. Mi raccomando, chiedo uno sforzo a tutto il mondo bancario perché possa erogare subito liquidità alle imprese che ne hanno bisogno rispettando quelle che sono le nostre indicazioni. È un atto d'amore che chiedo anche al mondo bancario per l'Italia, per i cittadini italiani e per le imprese. È roba pazzesca, non devi chiedere atti d'amore, mandatemi Porro, non bisogna chiedere atti d'amore. No, ma forse ci siamo, non nessun ci siamo capiti, atto è un d'amore. Atto dovuto, non d'amore, ma stai zitto, è un atto tu non dovuto. C'entri, quello che ha detto Conte, Porro su questo, Porro. Dice Tonino, come mai non fai una telefonatina all'INPS e gli chiedi perché non mi hanno dato neanche i 600 euro? Perché questi sono tutti fenomeni, no? Dice ieri Conte, che è un'altra frase fantastica, che oggi Gramellini prende un po' in giro, il presidente Conte, ci chiedo alle banche un gesto d'amore. No! Non devi chiedere un gesto d'amore! Devi fare una roba meno burocratica! Il gesto d'amore non lo chiedere alle banche! Vallo a chiedere al tuo compagno di banca Tridico! Vallo a chiedere al Crillino Tridico che dia le 600 euro al barbiere Tonino! Tonino e a 500, 600 mila persone che non si riesce a capire bene perché non l'abbiano ancora ottenuto, no? Il gesto d'amore alle banche. Avanti tutta Nicola, avanti tutta, è incredibile questa cosa qua. Poi oggi c'è anche il vice ministro Sileri, il vice ministro Sileri, il quale per assolutamente bravissimo, no, mi sta simpaticissimo, è stato anche qui ospite di questa disgraziata trasmissione, che ha detto, credo a Radio Rai, ha detto una cosa del genere, gli hanno chiesto, ma scusi, la questione degli affetti stabili, e ha messo in mezzo gli amici, per confondere ancora di più le cose, gli amici, siamo arrivati... Non per confondere, lui è viceministro, quindi ma sa... Ma no, quel lui che per confondere, no, lui amici. Giustamente, lui ha ragione, perché un amico può essere un affetto stabile. Io aggiungerei certo. Anche una prostituta, un amante, ma no, ma una tromba amica. Comunque fallo no, sentire. La realtà è questa. No, ma il senso è che non sanno nemmeno loro. Non lo sanno nemmeno loro. Limitare gli spostamenti. Ma perché fai? Ma perché, è il ma perché sei il manutengolo di Brusaferro? Perché fai il capo di Conte? Fai il capo di Conte. Ho detto che Conte ha detto una stronzata sulle banche. Conte ha detto una stronzata sulle banche. Fammi sentire. Chiaramente è nata poi una polemica sì. Su questo affetto stabile, ma diciamo che sono tutte quelle relazioni che una persona, voglio dire anche un'amicizia, è un affetto stabile. A volte soprattutto chi si sposta da una città all'altra stabilisce degli affetti con degli amici che sono spesso migliori allora? Di alcuni diciamo della famiglia. Bravo vice ministro, diciamo la verità. Quindi ora, diciamo questo... sia l'amico che il fidanzato? Ma sì, anche perché poi spesso le fidanzate o i fidanzati sono pro tempore, diciamo, certo. La verità. Sì, ma gli amici sono molto più duraturi, ha ragione. Quindi si potrà anche andare a casa di un amico, trovare un amico? Se è considerata, diciamo, un amico vero e non è una scusa, sì. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto chi ci governa? Compreso Sileri, lo abbraccio, ma è una buffonata. Ma che vuol dire? Da una parte un leguleio che legge ogni singola parola del decreto, dall'altra non ne capisci lo spirito generale, che è quello di una lenta ripresa. No, ma lascia perdere, non sei il solito capo di Conte. Allora, posso dirti una cosa? Se uno ha un amico, abita a Brescia e ha un amico a Verona, un amico a Padova, che cazzo fa? Cioè spiegami, un amico abiti a Brescia e un amico a Verona. Che cazzo fai? Non ci vai? Ma io intanto non ci vai, a Verona, dimmi, non ci puoi andare. A Verona io non ci puoi amici andare. Non vado a Verona. A Verona sei, non ho amici, sei incredibile, non vado. Sei incredibile. Veronesi tutti matti, non vado a Verona, allora, poi c'è quell'avvocato fascista lì a Verona, non passiamo, vado manco. Passiamo a Mario Giordano. Passiamo a Mario Giordano. Appunto. E vediamo passiamo qui che cosa Giordano. Dici. E vediamo qui se come il suo amichetto il della rete che lo paga. Aborderò. Vediamo aborderò? Se adesso ma lo attacca. Aborderò, aborderò, aborderò. Aborderò della rete Rete 4, aborderò. Ma perché tu non sei pagato? Ma non sei pagato dalla 7. Stipendiato e pagato da Rete 4. Vediamo se attacca quell'emittente. Allora, vediamo, ascoltate amici Giordano, ascoltatori. Giordano fa questo paragone. Mentre noi siamo chiusi in casa, i boss mafiosi tornano liberi, ti giuro. Così e ti sembra un paragone giusto? E ti sembra un paragone? Dillo. Guarda che mi ha appena scritto Manconi. Ancora. Che ti abbiamo già difeso. Abbiamo già fatto, gli avvocati sono già pronti per te. Nothing wrong. Questo stesso stato consente di tornare liberi ai mafiosi, di tornare liberi, di tornare ai domiciliari, di uscire di cella. Mentre noi siamo rinchiusi in casa, loro tornano in casa, 34. Oh signore. Senti questa. Loro tornano a casa. Loro tornano a casa, sentiremo più tardi anche i parenti delle vittime della mafia. Perché loro tornano a casa, noi chiusi in casa e loro tornano a casa. Perché questo è lo sta. Si è ribaltato tutto, io non mi arrabbio. Perché non mi devo arrabbiare, me l'ha detto Conte, non mi devo arrabbiare. Ma è un po' strano, voi direte, se i boss tornano a casa, escono di cella e invece strano, in catene ci finiscono i parrucchieri. Perché così ce l'hai la foto donata dei nostri così, amici Agostino e Stefano, ce l'abbiamo, eccoli là. E c'erano i parrucchieri incatenati. Ma sì, una protesta sono... giusta dei parrucchieri, ma non c'entra nulla con i boss che vanno a casa però. Ma come fate informazione? Perché vero, metti insieme però due cose è vero, che non c'è? Eccolo, che i mafiosi tornano a casa, vengono cioè scarcerati, mentre c'è l'immagine plastica, iconica del di carcere due, dei di due parrucchieri. Di due ma non è così con le però. Catene, perché non li ma fanno riaprire? parrucchieri, ma no, ma ho capito, ma non incatenati, sono due capi che non c'entrano nulla. Incatenati dallo Stato, mafiosi liberati. Ci sta, bravo Marione Giordano, ci sta nella polemica, ci sta, ci può stare. E tu non lo capisci, ci può stare tranquillamente. Mafiosi, boss mafiosi, scarcerati, ovviamente agli arresti domiciliari, per carità, però comunque scarcerati. E invece i parrucchieri a Padova con le catene. Ne, questo è il punto fondamentale. È un'immagine, chiaramente è un'esagerazione, ma ci sta come argomento. Perché ci così sta. Ce l'hai la foto, chi? Donato, e dei chi? Nostri amici Agostino e Stefano. Ce l'abbiamo, eccoli là. Siete criminali. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Maglioncino girocollo in cotone di Trussardi, 190 euro. Per 12, 2280 euro. Lorenzo, però, cioè, tu devi capire, anche i signori rom che fanno le rapine a Napoli e poi ci scappa anche il morto del poliziotto, il carabiniere, cioè, e i signori rom, e sono 50 giorni che non stanno lavorando, Ciccio, qua non c'è gente in giro da sottrargli il portafoglio o rapinare, tutti in casa, non puoi fare il topo d'appartamento. Rame in giro non ce n'è perché non ci sono cantieri aperti, cioè, ma che cazzo facciamo, Parenzo? Vogliamo dargli una mano a sta gente? Quindi adesso che abbiamo individuato che sono i signori rom, liberi tutti, cioè abbiamo scarcerato un super boss mafiosi perché avevano qualche lineetta di febbre, e vogliamo mica incarcerare questi qua che hanno siamo andati a procurarsi da mangiare in modo leggermente, diciamo così, un po' più forte del normale, senza bancomat ma col ferro. Però Parenzo, sono tuoi amici, Ciccio. Casa Parenzo, Davide, Natania Zevi, avvengono anche cose belle nella vita. Natania aspetta una bimba, giusto? Sappiamo già il nome, il terzo. Questa è finalmente una femmina, quindi la chiamerei la terza. La terza, sì. È incredibile, io dico, è incredibile. Ma cosa c'è di male? Io propongo un'altra cosa. No, non c'è niente di male, ovviamente. Io propongo un'altra cosa. Propongo un'altra cosa. Perché non la fai nascere fuori dal coro? Beh, la fai nascere fuori dal coro. E poi potrei fare la prima ospitata dritto e rovescio, cioè la nascita a fuori dal coro, ce l'abbiamo qui fuori dal coro, e poi c'è Giorgia Meloni, Matteo Salvini, e poi a dritto e rovescio facciamo la prima intervista. Falla nascere a fuori, a questo punto falla nascere a fuori del coro, sta la terza, si chiamerà la terza, falla nascere a fuori dal coro sta bambina, la terza come la casa editrice, come la sì, casa non lo so, editrice, va bene, va benissimo, la terza è la terza, Parenzo, come dovevo chiamarla, la 4, la rete 4, ma veramente chiamarla, la vuoi chiamare la terza, capito. Veramente la vuoi chiamare la terza, ma che, no, è una terza, che è una ha detto che è una femmina, la terza, Parenzo, facciamo la nascere a fuori del coro, ma è un'idea fantastica, con Giordano, con Giordano vestito da medico, fa il commento, naturalmente, tutto il commento in diretta live. Senti, senti, live. Senti che tira sulle serrande, senti che tira sulle serrande, Giordano, dalla parte dei commercianti, i parrucchieri. Su? Lui, ma, cioè, ma serranda, ma quali commercianti? Ma non ha mai, ma quali cosa dalla parte di, questa è la cosa che mi fa incazzare. Cosa, come si fa a dire che Giordano è dalla parte dei commercianti? E beh, perché, scusa? Dai, ragazzi, ma bisogna dare la possibilità alle nostre aziende di vivere, allora noi stasera vogliamo con loro aprire le serrande. Allora ci sei, Alfredo? Alfredo da Milano, sei pronto che tiriamo sulla serranda? Vai, Alfredo! Alfredo, vai, dai! Vai, Alfredo. Buonasera, direttore, buonasera! Buonasera, sulla serranda, ecco, sulla serranda Milano, andiamo, Veronica! Beh, tutto show, a Roma, tutto su, show. Apriamo la serranda anche a Roma! Avanti! Eccola, Veronica, vai! Salvatore a Napoli, la pizzeria di ma Napoli! Noi amiamo Napoli, ovviamente, Salvatore! Vai, è la tua meravigliosa pizza aperta, e allora sì, l'apriamo anche noi. Apriamo, vai Donato, Confetti. Vai Donato, apri la Donato. Vai. Su. Apriamo, non devono morire. bellissimi, è stupendo, ragazzi. Ehi, noi amiamo Napoli. Poi invita Feltri che sputa su Napoli. Siete incredibili. Siete delle persone incredibili. Ma io mi auguro che a un certo punto queste vostre contraddizioni demagogiche vengano tutte messe in evidenza. Cioè... Allora, ragazzi, qui c'è invece. Allora, comunque parliamo di questa bella intervista. No, c'è da registrare. Zitto un attimo. Ancora Tutolo. Tutolo che dà del figlio di puttana a Feltri, ti giuro. Cioè, poi ma voi. No. Scusate, no, poi su Feltri poi abbiamo già dato. Però vi lascio. Le scuse di Giordano non le fai sentire. No, ma Giordano ha detto. Ma se vuoi te le faccio sentire, non è un problema. Le cose dette su Feltri dopo l'uscita di Feltri sono di gran lunga. Di gran lunga peggio della cosa che ha detto Feltri. Ma proprio vabbè, di gran lunga, essere. No, ma sicuro. Sicuro, ti posso dire, basta fare. Non sono opinioni, una collezione, tu, no? No, sono solo ma certo, opinioni, ma nessuno, come infatti, tu. Nessuno vuole portare in tribunale Tutolo o altre persone. Nessuno li vuole portare in tribunale. Va benissimo che dicono del figlio di puttana a Feltri, ma ti ripeto, se uno andasse a prendere tutte le critiche che hanno fatto, che abbiamo letto, anche tralasciando i social, a Feltri, dopo che ha detto quella roba lì, sono Feltri sicuramente nulla, peggio. E delle sono parole di Feltri non dice. Ma che nulla. Abbiamo detto una settimana, non abbiamo parlato delle parole di Feltri. Che cazzo vuoi? Silenzio. Tutolo, in silenzio. Io spero che questi due, non come ha tentato di fare il caro Vittorio Feltri dicendo giustificarsi, dicendo che con un Twitter che è chiaro Twitter, che sono state strumentalizzate le parole perché lui ha detto voleva dire che era una inferiorità economica, è peggio perché significa semplicemente che non solo ci hai preso per il culo, ma tu i fa brur passa a seconda passata. Oh, figli di puttana! Tu a noi non ci prendi per il culo! Tu hai detto che noi siamo inferiori! E mi dispiace dirti che non hai nemmeno le palle per confermare quello che hai detto! Ditemi voi se non è peggio questo rispetto a quello che ha detto Feltri. Ditemi voi, potete giudicare, potete chiamare naturalmente, potete chiamare come al solito. Allora, Edward Luttwak, ragazzi, numero uno assoluto. Ah, ieri l'ho sentito, pazzesco. Beh, amico mio, sentito. Il contagio è l'unica via d'uscita. Il contagio. Sì, gente muore, sì, bellissima, è stata una cosa pazzesca. Sì. È esattamente l'unica possibile maniera di gestire questo in maniera intelligente. Si deve accettare il contagio fino al limite della capacità di gestire i malati più gravi. Se tu hai capacità per gestirne X, puoi avere più contagi. X. Perché il contagio è l'unica via d'uscita. I morti, Parenza e Luttwak, scusi, morte sono piccolo problema accidentale dovuto a coronavirus e naturalmente a CGL, che è grande CGL. Problema italiano e non coronavirus, che farà qualche morto come dicono giornali e telegiornali, ma grande problema è il sindacato che in questo paese blocca da anni, mille anni, blocca tutto, fa manifestazioni di piazza con Landino e questi pugni Landini. Chiusi che bandiera rosse che sventolano, blocca cantieri e gente deve guadagnare, produrre coronavirus, piccolo problema. Questo virus non sarà fermato da Padre Pio né da un vaccino fino a che questo vaccino arriva e viene fatto in miliardi di copie. Ragazzi, ma comunque c'ha ragione lui, miliardi di copie. Però, Alberto da Cuneo, avanti tutte, iniziamo, dai. Ma Alberto poi Padre Pio, perché lui è molto anticlericale, dice Padre Pio non fermerai. Crucio, vabbè, mi senti? Sì, vai Alberto, avanti tutta, dimmi. Ascolta, dovresti darmi una mano a far passare un'idea che so io. Riapriamo subito i bar, subito, sì. E mandiamo tutte queste teste di cazzo di virologi, politici, giornalisti e non so neanche dei giornalai, uno tu ce l'hai accanto, sì. Perché almeno diano tutte le cazzate, diano in televisione, le diano al bar, tranquilli e beati, se le diano fra di loro, perché tu non ma puoi guardi andare che io ho detto che i bar devono riaprire ma con le norme di sicurezza, ma, chi è ma è ovvio che devono riaprire, sì, ma lui non intendeva. È ovvio che devono riaprire, questo è è ovvio che devo riaprire il salame. Il giornalaio salame. La mia chic che fa finta di avere soldi e si fa collegare da questo mattino e sembra uno sgabuzzino. Mi collego sempre da casa perché non mi muovo da casa. Il maglioncino dell'usato di Frussardi è lui che parla. Ma il maglioncino, però il maglioncino, se vuoi te ne regalo uno, se ne vuoi, no, se ti piace tanto. Non ho bisogno, te lo posso regalare. Se lo posso regalare, o Pischerello, te lo posso regalare. Aspetta, fammi sentire Alberto, fammi sentire. Ma quando sei in televisione, siccome è proprio scemo non sei, ma quella finocchiona, cioè, che non ti mangi te. Stanno, ma quella finocchiona che ti mangi, ma non è che tu hai mangiato troppa finocchiona. Luca, non hai mangiato troppa finocchiona. Fermi tutti, Alberto, dove vuoi arrivare? Dove vuoi arrivare? Arrivare che non è possibile sentire tutte queste cose, le stai facendo anche te sentire. Alla Zanzara è un conto, in trasmissione, no, forse non hai capito, forse non hai capito che se ne sente, si sente tutto il contrario di tutto ogni giorno. Sì, ho capito, ogni però, giorno oggi ho scritto due cose e sto cornuto di Alberto che dice, ad esempio, sentiamo l'opinione di sto poro cornuto, di sto poro cornuto. Dai, sentiamo sentiamo l'opinione di sto cornuto, sentiamo l'opinione di sto cornuto. Porro perlomeno fa le dirette sulla zuppa, si vede delle belle vetrage, si vede delle cose belle. Ti sta dicendo che Porro è una casa più ambiziosa della tua, diciamo. Beh, quello più sicuramente quello sicuro, io infatti non voglio avere una casa più perché ambiziosa. Perché tu dai il corno, sei tutto terrazzino, un piccolfino, un prato ai. Però posso dirti una cosa, perché dai del cornuto a questo qua? Voglio riabilitare perché la figura. Sicuramente un cornuto. Voglio riabilitare, no, la figura, infatti, del cornuto. Infatti, il cornuto è una figura. Il cornuto proprio, lo so. Ma guardate che cornuto, essere cornuti è una cosa nobilissima. Basta esserne consapevoli. Basta esserne consapevoli. Cioè, punto. Ma so che non lo volevo Parenzo, offendere in alcun Parenzo, modo, ma ho detto semplicemente. Anche un po' ignorante, farebbe parte della famiglia De Bischeri, che se vuole glielo spiego, insomma, la famiglia. No, so, conosco bene il toscano, Aaron, la mia figliola è toscana, fermi quindi tutti, la conosco. Fermi. Cioè, questo significa che ti piace qualcosa del nazismo, di quel signore con i baffetti? Ti piacerà qualcosa del signor Hitler o no? Mi piace ad un certo punto l'ordine, la disciplina, l'organizzazione che c'era in Germania. Mi piace che la Germania abbia difeso a un certo punto l'Europa. Sono in compagnia. Tu invece che fai le pernacchie, sei un cretino, quello senta, lì che fa le pernacchie. Quello è il livello, è il livello di intelligenza di Parenzo. Caro avvocato, mia nonna è stata in campo di concentramento. Nel campo allora, di Bergen-Belsen. Allora, i suoi parenti sono morti nel campo di concentramento. Ma scusa, io se la trovo sovietica a Verona, le sputo in faccia. Se ti trovo per strada, non ti tocco, ma ti sputo in faccia. Bellazzi, io non capisco. Ti sputo in faccia. Io non capisco una cosa. Ti denuncio alla procura. Ti denuncio alla procura. È infame che non sei altro. Io ti sputo in faccia. Nazista schifoso. Ti sputo in faccia. Avvocato. Ti sputo. Come si fa a dire? Come si fa a dire che l'Olocausto non esiste? Ma perché? Perché? Schifoso. Come si fa a dire una cosa del genere? Schifoso. C'è la prova. Maledetto schifoso. Ci sono maledetto schifoso. Che tu sia maledetto. Io ti denuncio alla procura. Cura. Mia nonna è stata in campo di concentramento! Maledetto! La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24. La qualità dell'audio è pessima. Oh no, she's not a secret now. Comunque avete rotto i coglioni, io sto tanto bene a casa, tutti dicono socializzare, io sono uscito fuori stamattina per pagare un bollettino, ho incontrato una vecchiaccia e mi fa: oh Francesco, ma che sei ingrassato, ma vaffanculo, ma chi vuol socializzare? Direttamente da Los Angeles, oggi mi sveglio, apro la cassetta della posta e lo trovo. Ah, l'assegno di Donald, $1,200, grande Donald. Cruciani, devo ammettere che quando hai detto che ti sei fatto fare il test per il Covid mi ha girato molto molto il cazzo, perché sono un infermiere che lavora in Toscana e ancora non mi è stato fatto niente. Mica è colpa mia, ma che cazzo c'entra? Mica è colpa mia, ma siamo alla follia più totale. Ma siamo alla follia pagato, più totale, certo. Ma cosa c'entra? Ma non c'entra nulla. Dovrebbero farlo gratis a medici e infermieri. Ma certo, e ma lui certo. Che ha le conoscenze invece ma se lo fa. Ma quali conoscenze? E lo possono fare tutti pure. Gratis. Poi il problema sarebbe il mio. No, gratis un corno. Ma come no? E poi il problema sarebbe il mio maglioncino. Ma vai a quel paese, pazzesco. Questi sono i populisti, comunque, questo è tipico. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Allora, oggi è la giornata in cui, ancora una volta, contraddizioni su contraddizioni. Ripeto, il vice ministro alla salute, che si chiama Sileri, ha detto una cosa incredibile, che per me è giusta, però è incredibile, è in contraddizione, norma, è molto semplice. In contraddizione con quello che c'è stato detto fino adesso. Cioè, l'affetto stabile è anche un amico, però, attenzione, bisogna vedere che amico. A meno che uno non fa, ragazzi, siete incredibili. No, ma sono vietati gli assembramenti, è molto semplice. Ma cosa c'entra? Tu non è che vai dall'amico. L'amico con deve essere amici vero, persone. Ma chi lo decide che è un amico vero o no? Ma chi lo decide? È ovvio e poi che uno è potrebbe ovvio avere un amico vero, ma dirtelo, uno potrebbe avere un amico vero in un'altra regione, ma che roba è? Te ne dico un'altra dell'organizzazione ma non ti puoi spostare dei tuoi da una regione no, all'altra. No, ma te però. Ne dico un'altra dei tuoi amici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ti piacciono tanto. Oggi uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un italiano, un tale Guerra, ha detto che questo qua è un virus. Cioè, ha detto delle cose incredibili, non ci hanno capito un cazzo prima. In contraddizione mille volte, e l'influenza, le pressioni della Cina. Adesso hanno detto è un virus terribile, ancora non conosciamo le conseguenze. Ma chi se ne frega? Ma ci devi spiegare tu quello che cos'è, non ci devi dire è un virus terribile di cui non sappiamo le conseguenze. Beh, ma ci devi indicare la strada. Non parlare, stai zitto. Ma che non bisogna sottovalutare che dai, la salute pubblica su. È quella del distanziamento sociale e avere i dispositivi di sicurezza. Appoggi tutti, pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità riesce ad appoggiare. Ma non appoggio nessuno, dico semplicemente che io rispetto quelle norme per me e per gli altri. Ma poi se non c'entra? Ti piacciono che non mi ma piacciono neanche c'entra? A me io ti sto dicendo e di quello mi auguro che detto. Facciano presto un vaccino, che ti devo dire? O che almeno trovino una terapia. Giuseppe, scusa, ma a questo punto posso chiedere a Sileri se posso tornare in Veneto per andare a scopare? No, non puoi. Non come puoi, no? Perché non stai puoi. In Lombardia e non puoi. Ma capito, ma non si può spostarsi da una regione all'altra. Uno non può andare a Verona in questo caso, 200 chilometri meno di 200 km. Ma io non posso andare a trovare i miei genitori che non vedo da 3 mesi, ad esempio. Non posso. Non posso andarci. Abitano in Veneto e non posso andarci. E purtroppo io ci andrei venerdì, sabato e domenica subito, ma non posso. Incredibile. Tu sei incredibile. No, ma per dire che non siete i soli. Anch'io sono in questa condizione che non vedo i miei genitori da 3 mesi, ad esempio. Alfonso dice ti cago nel salotto. Un signore. Se glielo dice, cosa vuol dire? È stupendo. Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo. E fatti due domande del perché te lo dicono, fratello caro. Ma perché se fai la diretta con i commenti e poi domande. Leggi i commenti. Aspetta, aspetta. Te lo dicono, è normale che te lo dicano. Thomas da Medjugorje. Onore a te Giugorie. E alla Vergine. Perché onore a te alla Vergine? Uno che chiama la Medjugorje. Non lo so perché. Non onore a perché te alla Vergine. È ma pazzesco. Perché siete così? Ma io che c'entro a fare io che c'entro? Tu che l'hai votato, che quindi ti sei riconosciuto Alfonso in questo dice ti pensiero. Cago nel salotto. Un signore. Ma perché tu apri ai commenti? Cioè, perché no, ma li poi, leggi? Scusa, perché li leggi? Ah, sfregio dici. Ah, no, ma una perché cosa li leggi? Sì, ma perché legge i commenti in diretta? Ma le legge perché così dici che sono i comunisti e la sinistra che gli vuole cagare nel salotto. Questo è il attenzione, tema, arriva Meluzzi. Io do ragione a Montagnier. Il virus è nato in laboratorio. Senti. No, dai, perché? Quello è un virus fatto in laboratorio perché c'ha un pezzo di virus. Che è simile al virus del raffreddore, tipo gli ortoparamiziovirus, è un tratto tratto dal virus dell'HIV, che serve a renderlo così particolarmente occulto e insidioso. Allora perché Montagnier dice questo? Perché è impazzito, perché è demente, perché fa gli interessi della Francia? No, io credo perché il virus è nato in quel laboratorio. Con la cultura del medico legale, del criminologo, dello psichiatra forense, ti dico che con tanti virologi improvvisati che ci sono in giro, che i virus, come diranno certe lui che non è virologo, i virus particolarmente maligni e con delle caratteristiche strane come quello contro cui stiamo combattendo tendono ad avere una loro durata perché, e delle loro caratteristiche, proprio perché sono progettati per ottenere un risultato. Signor Meluzzi. Ospite da chi? Fammi indovinare un attimo. No, ospite da fuori dal coro, no, giusto? No. Sì, fuori dal coro. Certo. Allora vai, Luca Lugano, vai, avanti tutta. Eccomi presente. Comunque ragazzi, qualcuno sostiene, non a torto, che i virus degli ultimi 15 anni vengono quasi tutti dai pipistrelli, così sembra, no? E, beh, perché insomma potremmo porci l'obiettivo di sterminarli sti pipistrelli oppure no? Secondo adesso te? Vuole sterminare pure i pipistrelli. Ma cazzo, ma stermino i pipistrelli che pipistrelli. Cazzo fanno di beh, positivo? Ma non è pipistrello. Ma sterminiamo questi pipistrelli. Hanno, nel meccanismo dell'ambiente hanno un ruolo determinante anche per gli insetti, i pipistrelli invece, per il riequilibrio ambientale. Adesso servono i pipistrelli. Leggiti il grande libro edito da Adelphi. Vabbè, di cui Luca adesso da Luca, ti parlerò. Vai, Luca, eccomi. Io volevo semplicemente portare un dato agghiacciante. Qual è? Il dato agghiacciante sta nel fatto che non si sente un cazzo innanzitutto. Questo è il primo dato agghiacciante, che non si sente una sega. Però andiamo avanti. Seconda cosa qual è? Allora, la seconda cosa è che Conte ha un pubblico di casalinghi irrequiete. Ma che dici? Se ci sono fan di Conte dappertutto. Io leggo commenti agghiaccianti. Casalinghi. Stefano da Verona, questo è un coglione. Stefano da Verona, vai avanti tutto, dai. Dimmi, pronto? Dimmi Stefano, dimmi. Sì, dimmi. Io avevo chiamato per parlare di Conte, ma mi dispiace parente, sei proprio un coglione, perché ogni volta che parlate dell'olocausto... Buonasera, benvenuto. Buonasera, benvenuto. Ogni volta che si parla dell'olocausto devi fare una cazzo di vittima. Scusami, no, stai calmo, questa è una vecchia telefonata. Innanzitutto rimetti anche tu bene il telefono, perché sennò mi incazzo. Io non sono vittima. Metti bene il telefono, togliti la voce, aspetta. No, chiarisco dimmi, subito Stefano. Prima di mandarlo a quel paese e dargli una sberla. Mettiti senza viva voce, senza auricolare, cazzo. Non sono in viva voce, sono con le AirPods, costano più di casa. Ma tua. Togli le AirPods, allora, di merda! Prima che lei dica cose. Oh, gli AirPods. Prima che lei dica cose sbagliate e mi faccia incazzare, e che quindi se per caso la dovessi trovare per strada. Se per caso la trovassi, le darei una sberla, e lo giuro, le darei una sberla. Ma sei alto 1,40 m. Allora, siccome questo invece è un tema molto serio. Ma questo qua, aspetta, le ha tolte gli AirPods o no, questo cretino? Sì, non li hai tolti. Mia famiglia è stata vittima di quella roba là. Quindi le parlo, non ho capito Stefano cosa vuole, per una questione ideologica. Mi dici Stefano, ho capito che è stata vittima. Quindi, ma non c'è bisogno di siccome è stata vittima, se ti trovo per strada ti tiro una sberla in faccia. Va bene, se vieni me a prendere, se mi ripeti quello che hai detto e ti trovo per strada, ti tiro una, lo dico e poi mi autodenuncio anche. Ti tiro una sberla in faccia. Stefano, non mi fare. Perché tu devi capire che questa non è una cosa mia ideologica, ma è una cosa di famiglia, hai capito? Quindi se tu questa cosa qui me la dici per strada, ti tiro. Ma cosa c'entra? Ma nessuno fa la vittima, lo stai dicendo tu. Io non faccio la vittima, io dico che se uno in 10 secondi che si parlava dell'olocausto, ma quello diceva delle puttanate, a un revisionista che diceva allora, facciamo così, tu abiti a Roma? Stai a Roma? A Verona. Mi piacerebbe, guarda, non ho sentito Mentecatto, vengo a Verona perché mi farebbe piacere veramente conoscerti per tirarti una testata in faccia. Facciamo così, visto che il numero al centralino della radio ce l'hanno, mi faccio dare il numero così ci parliamo in privato, ti va bene? Va benissimo, perfetto, dai, ci sentiamo dopo in privato, tranquillo. Ma perché? Non ho capito. Perché in pubblico c'è paura? Ma non ho capito, voglio chiamarlo in privato, voglio chiamarlo in privato, così gli dico cosa penso. Non ho capito bene che cosa vuoi, il senso di questa telefonata qual è? Ma guarda, io stavo chiamando per un'altra cosa, però no, ma qual è il punto? Qual è il punto? Allora stai zitto, figlio di una gran puttana. Volete che arrivo al punto? Qual è il punto? Dimmi, il punto è ho qualcosa fra i denti, non ho mai Wolfgang da Genova, dai. Poveretto. Wolfgang, dimmi. Però lo chiamo in privato. Dimmi, dimmi. Ragazzi, fermi tutti, fermi tutti. Fermiamoci un attimo, fermi. Qua che sento il podcast di ieri, Parenzo, Cruciani, numeri uno, ma c'ho una sola voce nella testa: quanto cazzo me manca Gottardo. Vai Gottardone! Sono mesi che l'OMS, i medici, il governo, i media ci stanno facendo due coglioni così, che per evitare il contagio bisogna lavarsi le mani, essere puliti e seguire norme igieniche stringenti, no? E poi scopriamo che Cruciani non ha mai incontrato il virus. Allora qua o si stanno nascondendo qualcosa oppure il virus aveva paura di infettarsi con Cruciani. Nicolas mi dice: la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo. Ti rendi conto? No? Ma lo fa per un semplice motivo, perché così può dire che appunto ma la no, sinistra. Ma non lo dice capito? Nemmeno. Ma non lo dice nemmeno. Ma no, perché il sottotesto è quella roba. In verità gli odiatori sono trasversali. Comunque, posso dirti cos'è al nocciolo la comunicazione del governo che ci sta facendo in queste ore, in questi giorni? Cioè, vogliono dirci sostanzialmente che c'è una massa di cittadini, almeno lasciano credere che ci sia una massa di cittadini che non aspettano altro che una specie di via libera per assembramenti, orge, certo, congiunzioni multiple. E non è vero, e non è vero, e non è vero. C'è e già poi molta invece, gente in giro. E poi in questi invece giorni, c'è il Roma, presidente. Cosa c'entra la gente in giro? La gente in giro bisogna vedere come ci sta in giro. E poi c'è invece appunto, il presidente. Appunto, senza la mascherina. E poi c'è il presidente, e non parliamo delle mascherine, c'è il presidente, lui naturalmente che ci protegge, che ci protegge da noi stessi o da loro stessi, riferendosi ai cittadini. Questo è il punto. La gente se protesta, se è incazzata, un motivo c'è. No, però scusami. La tu gente all'inizio di questa pandemia dicevi che la gente è irresponsabile, tu lo dicevi. E no, che lo sto hanno fatto delle certo. No, no, dicevi certo. Ci vogliono i militari, eccetera. Certo. Adesso dici il contrario. No, non è che dico io invece il contrario. Ho sempre detto la dico, stessa cosa, no, cioè... no, dico che è passato un certo periodo di tempo, è evidente che bisogna lasciare la gente rimane sempre libera con la responsabilità. Capito. Aspetta. Ma no, se eri lo stesso che dicevi che la gente era irresponsabile, andavano fatte le sanzioni prima. Ora tu hanno acquisito più consapevolezza ma in questi mesi. La gente è terrorizzata, speriamo, certo, è terrorizzata speriamo. La gente. Speriamo. Fatto sta che qui a Roma, come dici tu, ma dove quale? Il virus si è mostrato meno violento di quanto non sia in Lombardia, la gente allora, gira con se la meno gente, protezioni. Se la gente protesta, un motivo preciso c'è. Siamo stati dentro casa, abbiamo ubbidito. Tutti protestiamo. Aspetta, tutti abbiamo ubbidito. Non è che... ci aspettavamo che cosa? Un tracciamento dei positivi, un isolamento lontano da casa, questo i test, è un altro cioè, discorso. Tutto questo benissimo, non è avvenuto. Discorso. Dunque, la gente altro è incazzata discorso. Per questo, perché vede disorganizzazione, non vede un progetto, non vede sì, un piano. Stiamo parlando non della vede responsabilità. Un cazzo. Quindi tu, se tu dicevi un mese fa, la gente non è responsabile, va chiuso tutto. Tu lo certo, dicevi, militari certo. Per le strade, adesso eccetera. Basta, adesso basta. Ecco. Adesso però basta. La gente è diventata più responsabile adesso? Ma la vediamo, gente è terrorizzata, non lo so. È terrorizzata. E questo certo. Siamo d'accordo. Però purtroppo appena riapri. Direttore, noi abbiamo una situazione epidemiologica differenziata sul territorio, quindi prima questione non accetto che vengano quale? Applicate tu curri in tutto il territorio nazionale le medesime restrizioni. Non si può continuare qua da settimana in settimana con la concessione o la visione della concessione dell'ancien regime, come se ancora esistesse lo statuto albertino, vi concedo questo, vi concedo quello, ma che concede? Ho letto questa porcheria del 27 aprile, dopodiché avendo letto e avendo grande sentito Catino, la vai. Conferenza stampa non ho trovato traccia né per il 4 di maggio né per il 18 di maggio né dell'1 giugno per quanto riguarda Sarti, Barbieri, per quanto riguarda le strutture balneari, ma in fin dei conti ma un sarto, ma un ciabattino, ma uno che va a fare la pesca amatoriale da solo, un sub, ma a chi rompe le scatole? A chi mette in pericolo? Basta ora. Avanti tutta, Cateno, avanti tutta per la libertà, avanti tutta. Raffaele D'Arezzo, quello delle emorroidi. Come si fa? Dimmi, Raffaele, dimmi. Crux, ma mi hanno detto che sono venute le emorroidi. Ma no, ma che mi ho l'emorroide? Ma che dici? Ma sei sempre in piedi, ho visto. Ma che c'entra che sto in piedi? Sto in piedi perché mi carico così in questo periodo in cui sono un po' depresso, mi carico a stare in piedi. Cosa vuol dire? Adesso mi sono anche alzato. Non ho le emorroidi, guarda, magari ho altri problemi, ma le emorroidi sicuramente no. Non c'ho le emorroidi. Ragadi nulla? No, ragadi non ce l'ho, amico mio. No, ah, non ho le ragadi. Cioè, non ho le. Io ne soffro tanto. Ancora, non sei riuscito a uscire da questa situazione, non ce l'hai fatta ancora. La quarantena ha peggiorato il tutto. Perché non puoi andare dai medici? Per quale motivo? Perché sono sempre fermo a sedere a casa o nel letto o nulla che fare. Ma ho capito, Raffaele, cioè, che cosa vuoi da me? Cioè, abbiamo già fatto dei consulti, ti abbiamo chiamato tutti mamma i medici possibili, ragazzi. E che vuoi di più? No, io vorrei una bella task force per le emorroidi invece per il coronavirus. Te ho lo capito, dico la task force delle emorroidi sono gli ospedali, i presidi medici, eccetera, eccetera. Capisco che adesso se uno si presenta lì e dice ho le emorroidi, ma scusi, abbiamo il Covid, un altro problema. Ma anche perché, scusa Crux, come tu sai, io soffro anche di prostatite cronica, quindi... Pure la prostatite cronica, che cosa produce? Non ho capito... La prostatite cronica che cosa produce? Quali sono i danni che ti è a batteria, è una calcificazione sulla prostata. Mamma però è allora che congestione più papposa, diciamo, al tatto. E che cosa fai? Cioè, non puoi trombare? No, no, posso, però se tu mi tieni in astinenza due mesi mi si gonfia, capito? Ho capito, amico mio, però che ti devo fare? Cioè, cosa vuoi? Vabbè, te lo volevo dire. Ma vai, affitta una mignotta e portatela a casa. Che un mio amico no, mi ha detto... No, ora aspetto la mia fidanzata, dai. Ma dove sta la tua fidanzata? No, nel comune, in quell'altro comune, dal 4 maggio si può. Dal 4 maggio? Sì, dal 4 maggio si può, vedi. Cioè, dal 4 maggio ti danno la possibilità della tua fidanzata. Ma perché uno deve chiamare per raccontare sta cosa? Cioè, come si va? Ma non so come si fa, ma lo condivida, ma non so perché lo deve condividere con milioni di persone. Un mio amico mi ha detto: la mia fidanzata è venuta oggi da Torino contro qualsiasi regola, doppia trombata alla faccia di Conte. La gente fa così alla fine. È anche una persona questa conosciuta, questo mio amico, non posso dire chi è, una persona nota. No, non lo posso dire. È uno del tuo giro solito di. No, fidanzata un a Torino, un imprenditore. No, non lo posso dire, è un imprenditore. Non è un imprenditore, è un manager. Fidanzata a Torino, la fidanzata non stai facendo fare una bella figura, sbattuta, ma no, ho capito che ti devo dire. E la fidanzata se n'è sbattuta i coglioni, non lo posso tutto trasparente dire. A questo tutto trasparente, dai. Fidanzata se n'è sbattuta i coglioni da Torino, non so con quale, diciamo, permesso, eccetera, venuta da Torino in barba, qualsiasi permesso, doppia trombata e via, ragazzi, è così la storia, dai. E l'ha raccontato a te che sei una persona riservata. Senza nomi e cognomi, che mi prego. Gioele da Vicenza, vai, Gioele da Vicenza, avanti. Ciao a tutti. Dimmi. Beh, Cruciani, intanto dimmi ciao, per favore. Sì, ti saluto, non ti preoccupare, non ciao. Mi rompere i coglioni. Buonasera, cioè. Signor Parenzo, buonasera. Vai, buonasera. Allora, anzitutto volevo esprimere tutto il mio appoggio nei confronti di Parenzo, che come i suoi parenti, purtroppo, anche noi come religione siamo stati soggetti del regime fascista e nazista ai tempi. Ma chi? Noi come gruppo religioso. Ma che gruppo religioso appartieni tu? Testimoni di Geova. Sei un testimone di Geova. Certo, sono stati perseguitati. Purtroppo anche noi come i parenti di vabbè, parenti, ma non è un argomento stati... adesso che ci interessa, esatto. Questo qua. Secondo, volevo esprimere il mio dissenso nei confronti di quelli che vogliono a tutti i costi aprire le chiese. Dato che anche noi ci trovavamo abitualmente come gruppo religioso, ovviamente per problema Covid abbiamo dovuto sospendere tutto. E non mi fare parlare dei testimoni di Geova, che io conosco un sacco di persone che volevano uscire da queste situazioni qua e hanno trovato grandi difficoltà a uscire dai testimoni di Geova. Volevo parlare di altro. Perché non ammettete, per esempio, perché non ammettete tra di voi, che ne so, che uno possa scopare in libertà all'interno dei testimoni di Geova? Volevo parlare di altro, Cruciani. Io invece voglio parlare di questo, pensa te. Beh, insomma, la Bibbia è chiara su certi argomenti, Cruciani, non serve tanto. Sì, ma voi mettete alla berlina le persone che non hanno relazioni stabili. Assolutamente, una persona è libera di intraprendere questo stile di vita. Ma tu sei contrario alla riapertura delle chiese, mi sembra. No, non vedo il senso di mettersi a far tanta polemica. La cosa più vergognosa è un'altra, è che il governo decide una cosa, di chiudere ancora le chiese fino a non so quando, poi a un certo punto se la fa addosso, perché un signore di uno stato straniero, un signore in realtà non di uno stato straniero, la Conferenza Episcopale Italiana comincia ad alzare la voce. La Conferenza Episcopale Italiana alza la voce e Conte si mette a trattare forse l'11 maggio. Ma che roba è? Hai deciso una cosa di non riaprire? Che non c'è polso da parte del governo. Hai deciso di non riaprire, non riapri, polso. Invece il giorno dopo te la fai sotto semplicemente perché ci sono i cattolici che si mobilitano sull'internet? Ma dai, su. E questo cosa può significare? Non lo so, non me ne frega Cruciani. Niente. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, che cosa bisognerebbe fare secondo te, Parenzo, a una, si chiama Simonetta Loi, no? E per adesso irrintracciabile, con vari precedenti, che a proposito dei morti del poliziotto morto a Napoli ha scritto ogni tanto una gioia con le immagini della macchina sfondata da quei signori rom a Napoli. Ogni tanto una gioia, ovviamente è stata denunciata eccetera eccetera. Io l'ho cercata per averla qua al telefono per dire ma come cazzo si fa a scrivere ogni tanto una gioia con l'immagine del poliziotto morto. A una del genere che fai? Cioè, che cosa fai a una del genere? Beh, intanto deve essere indagata per incitamento all'odio. Ma intanto deve essere indagata per incitamento all'odio. Beh, certo. Beh, una sanzione ci dovrà essere. Che devi dirgli? Questo non è un parere, un'opinione, no? In libertà. E questa va indagata, va processata. Wolfgang da Genova, vai Wolfgang, dimmi. Allora, ciao cari. Dimmi. Allora, volevo... Aspetta un attimo, aspetta, pronto? Sì. Tutolo. Chi è? Sono Cruciani, come va? Ehi, abbastanza male, grazie a te. Non c'è male, combattiamo, dai, combattiamo. Senti, voglio chiederti una cosa, ma è vero che hai dato il figlio di puttana a Feltri? Io? Sì. Ho sentito prima un audio, gli ha dato figli e puttana, cioè perché non hai avuto il coraggio di. Hai avuto pure il coraggio di giustificarti. Ma dai, su. Senti, voglio dire, credo che sia normale che uno che non ha nemmeno le palle per confermare quello che ha detto e per cercare di inventarsi qualcosa e ti prende per il culo la seconda volta, insomma, non è un po' troppo? A te non sembra un po' troppo? No, ma lascia perdere, però, scusami. Se a te uno ti dice che sei. Se io ti dicessi che sei. Che mi devi dire? È inferiore a qualcuno, a me, per esempio. Ma sì, ma d'accordo, ma lasciamo perdere, però non è che ti devi dire figlio di puttana, perché hai detto figlio di puttana. Che a me purtroppo ti è partito l'embolo. Purtroppo cioè è giustificata la cosa. Te uno dice figlio di puttana. Non mi giustifico. Se uno si arrabbia, ci sta. Però secondo me è meno grave se uno ti dice che sei un figlio di puttana o che sei inferiore a qualcun altro. Beh, oddio, adesso figlio di puttana. A me se mi dicono figlio di puttana mi incazzo di meno. Secondo te figlio di puttana è meglio di inferiore? Sì, secondo me sì, perché insomma da noi è un intercalare, diciamo, che viene, come dire, non è nel senso letterale del termine. Dunque non vuoi chiedere scusa a Feltri tu per avergli detto figlio di puttana? Beh, insomma, onestamente che io debba chiedere scusa a Feltri mi pare un po' troppo, insomma. Non vuoi chiedere scusa, tu sei figlio di puttana, vai, tutto io. Veramente se mi danno dell'inferiore a qualcuno, se lo avessi, diciamo, a portata di mano, probabilmente, non lo so. Che cosa gli faresti tu? Cioè, non lo so. Se l'avessi di fronte, se fossi il tutolo, diciamo, di quelli che gli parte l'embolo, avessi di fronte Feltri, che cosa gli diresti? Ah, non lo so, guarda, però è meglio che non succeda, è meglio che, insomma, voglio dire. E poi, cioè, potresti finire in galera. Ma non ho problemi. Le scuse non ti sono piaciute. Le scuse di Feltri. Per me l'importante è che, insomma, voglio dire, non si va in galera per aver, come dire, derubato, per far qualcosa, ma se si tratta di queste robe qua. Comunque, se Feltri ci chiede scusa a noi meridionali, io sono pronto non soltanto a chiedergli scusa, ma anche ad ospitare a casa mia gratis per tutto il tempo che vuole. Vabbè, ciao. Beh, ciao, questo è pesante. Ciao. Alfonso dice ti cago nel salotto. Un signore. Allora, grande ritorno di Alessandro Meluzzi qui alla Zanzara. Grande Alessandro, come stai? Buonasera a voi, tutto bene? Grande amico mio, Dio. grande. Le giornate partono sempre male, vedi, lo sapevo stamattina. Guarda, io quando sento Meluzzi in televisione sento sempre qualcosa di diverso, sento un suono diverso, sento delle parole diverse, originali, sento qualcosa che va oltre. Senti il divino che Telma, che c'entra? Anche il divino Telma, cosa vuol dire? No, il divino Telma che c'entra, fa un altro mestiere. Telma. Senti, vabbè, insomma, ho capito però. Scusami, da cosa ti sei convinto, caro Alessandro, che questo virus è stato progettato in laboratorio? Cioè, Ma guarda, io mi ascolto con attenzione le cose che sento da osservatore e quindi devo dire che le cose che ha detto chi ha parlato a proposito Montagnier. Non solo, ne ha parlato anche il presidente Macron, ne ha parlato anche il generale Figaro che cita delle fonti dei servizi francesi, vedete? Sì. Il laboratorio di Wuhan è stato costruito prevalentemente dai francesi con fondi di cooperazione internazionale. Sì. Quindi i francesi conoscono bene il laboratorio di Wuhan perché lo hanno fatto. Sì, sì. Poi a un certo punto, per qualche complessa ragione di rapporti interstatuali o di sicurezza, se ne sono andati, lasciando il laboratorio ai cinesi. Quindi conoscono le dinamiche, conoscono. Ma secondo te è stato diffuso apposta? Questo è il punto. Questo francamente non lo si può sostenere, cioè questo è difficile sostenerlo perché bisognerebbe trovare. Però tu metti in mezzo anche Bill Gates, hai messo in mezzo in un tweet anche Bill Gates. Bill Gates è un'altra questione. Bill Gates è un problema di bioetica, cioè Bill Gates segue, e queste rispetto alle cose che scrive, dice che bisogna ridurre la natalità, dice che bisogna mettere il microchip a tutti, dice che bisogna monitorare. Ma cosa come dire? Sta anche finanziando tutta la ricerca, ma che dici? Sta finanziando la ricerca. Aspetta, consideri Bill Gates. Bill Gates, come dire, uno che sostiene delle posizioni molto lontane dalle mie dal punto di vista bioetico. Però perché io sono contrario ad una riduzione forzata delle nascite, sono contrario a mettere il microchip sotto la pelle. Quindi? Ma non è che Bill Gates è contrario. Ma non vuole mettere. Ma non è che vuole mettere il microchip a tutti, ma che c'entra? Che può avere rispettabilmente, essendo un grande multimiliardario, ma che io non ho. Non ho né da cristiano né da medico. Scusi, ma che c'entra? Sta finanziando la ricerca sul vaccino. Che dici? Parliamo di Bill Gates, sono due cose distinte. No, però voglio dire, Bill Gates dice Parenzo sta finanziando. Ma lo dico io, così ha finanziato con l'Inghilterra, è il più importante studio di ricerca. Bisogna mettere il microchip a tutti, mi sembra terrorizzante. Ma chi è tutti? Ma dove l'hai visto a tutti? Dove? Perché diffondi stupidaggini? Quando mai ha detto che bisogna metterlo a tutti? Un conto è capire, studiare il futuro, studiare l'innovazione, ma che stronzate. E mi stupisco che anche Parenzo, poverino, debba per partito preso sostenere una cosa che io credo lui non possa pensare che sia vera, che sia giusta. Io non sostengo il microchip a nessuno, ma dico che stai distorcendo tu quello che dice Bill Gates. Punto. In qualche posto l'hanno già fatto e lo trovo spaventoso. Ma sai dove puoi mettere il microchip? Non ho altro da aggiungere. Ma perché questo argomento non ha altro da aggiungere? Scusa, dico, ma dice stronzate, ma non ha detto che deve essere messo a tutti. Bill Gates da anni si occupa di innovazione e intelligenza artificiale. Bill Gates da anni finanzia, studia e si occupa. Bill Gates, a differenza tua che sei un pope, a differenza che sei autorevole, per carità. Ma scusami, ma perché dovrei considerarti io un interlocutore interessante che sei autoproclamato pope? No, non c'è niente, dai. Chiudo Parenzo perché non posso perdere il don. Voglio capire le messe. Perché sei così favorevole alla riapertura delle messe? Sua eccellenza, chiedi io. Perché ritengo che sia un bisogno umano andare alla sinagoga, andare in chiesa, andare in moschea. Ma chi c'è dietro questa chiusura? La libertà religiosa sia fondamentale. Ma chi c'è? Poi, così come si può andare in panetteria a prendere una fetta di crostata che ti viene messa dal panettiere nel pacco o sulla mano per mangiarla, come la pizza bianca che ho comprato in una panetteria, allo stesso modo non capisco come una persona non possa raccogliere la sacra particola sull'altare, cibarsene nell'eucaristia e andare a casa. Non vedo quale pericolo. Ma chi c'è dietro, secondo te? Non capisco perché le panetterie, perché le tabaccherie, perché i supermercati devono essere belli e le persone non possono ricevere l'eucaristia. A te sembrerà una cazzata, forse no. Ma non, cioè, a me non me ne frega niente, allora, del meglio. Credo che siccome tutte le costituzioni liberali del mondo, da quella americana, prevedono la libertà religiosa, ritengo che il diritto alla libertà religiosa sia un diritto inalienabile, come quello al cibo. Ma chi c'è dietro? Perché non le vogliono aprire? C'è un non so, lo so, ma non ne ho idea. Gruppi massonici, che ne so. A me sembra soprattutto che ci sia un dissidio spaventoso tra la Conferenza Episcopale Italiana, che si è schierata con fermezza, e il giorno dopo Bergoglio li ha richiamati all'ordine, punto. Questo, Bergoglio li ha richiamati dalla parte del governo, Bergoglio. Esattamente, questa è la cosa che mi ha turbato e mi ha stupito, ma però fa parte della storia, fa parte un po' della storia della Chiesa. Comunque, della comunque Meluzzi ha detto nei giorni politica. Scorsi ha detto: piuttosto che avere un microchip infilato nel culo, preferisco morire. Preferisco morire, questo lo dirò fino alla fine dei miei giorni. Cioè, piuttosto che vivere con un microchip che monitora la mia salute e la trasmette in rete. Ma nessuno te lo mette, ma nessuno ha interesse a monitorarti in alcun modo. Se vuoi, te lo metti, se vuoi, non te lo metti. Quindi fai il pop e basta. Nessuno vuol monitorare un pop autoproclamatosi tale. Nessuno ha intenzione di. Sì, e ma ci dica anche qualche cosa delle flatulenze di Parenzo. Perfetto. Ci dica qualche cosa delle flatulenze di Parenzo. Ma il pop, dal culo, i fedeli del pop e Meluzzi, dove si ritrovano in questi giorni? I fedeli del pop, dove si ritrovano i fedeli del pop che si è autoproclamato tale? Noia. Si è autoproclamato pop. Ma posso autoproclamarmi pop? Ma dici, eri più carino. Posso autoproclamarmi pop anch'io? Io sono Parenzo II. Io sono Parenzo II. Io sono Parenzo II. Voglio sapere una cosa da Meluzzi. Fuori corso, c'è un ombra di voglio testo. Sapere una cosa da Meluzzi, un giudizio sui virologi, sulla dittatura, qualcuno ma parla di dittatura. Ma intanto bisognerebbe che fossero virologi, perché per esempio Burioni mi risulta che si sia specializzato in allergologia 12 anni dopo la laurea, quindi non so come non si possa definire virologo. Pur passando e non per so come si può definire Meluzzi, infatti, dire, uguale. Dovrebbero prima di sparare sentenze tutti i giorni, tutte diverse e quasi tutte sbagliate. Alessandro perché quegli stessi che ancora adesso pontificano quando Parenzo mi insultava a proposito del pericolo di questo virus, Alessandro dicevano II. Che pericoli non c'erano e per fortuna, purtroppo, i fatti mi hanno dato ragione. Io già allora dicevo che speravo di avere torto, purtroppo avevo ragione. Spero questi virologi studino un po' di più o perlomeno invece di sparare sentenze o cazzate, come è stato fatto con continuamente, anche dai più accreditati di questi, spero che con umiltà ritornano sui banchi di studio. Grazie. Sì, ma la cosa incredibile è che continuano ogni giorno. Ma per esempio... la Chiesa autocefala, cosa dice la Chiesa autocefala su questo? La Chiesa autocefala si occupa di altre cose. La Chiesa autocefala, cosa dice la Chiesa autocefala di Alessandro II? Cosa dice la Chiesa autocefala di Alessandro II? Cosa dice? Caro studente fuori corso Parenzo. Cara Chiesa autocefala di Alessandro II. Posso... Mamma mia, nonostante i ricordi, caro Pope, non è mai riuscito neanche a laureare. Essendosi autoproclamato, mi posso autoproclamare? Ma posso anch'io autoproclamarmi Pope? Scusami, però posso autoproclamarmi? Dimmi, Alessandro. Il patriarca Alessandro I. Dimmi, Alessandro. Il patriarca Alessandro I. Mi fai sentire o no? C'è una domanda a cui rispondo. La domanda è questa: è normale? O c'è una domanda qui è normale secondo te che ci sia il capo della task force su cui si potrebbe discutere l'esistenza delle task force che sia a Londra? Io questa cosa mi fa andare in bestia, non so perché il signor Colao è a Londra, ragazzi, quello che decide le nostre sorti è a Londra, dice che doveva tornare, poi doveva stare in quarantena, ragazzi, ma di che parliamo? C'è uno che deve che ce ne sia anche un altro, non so, negli Stati Uniti, nel Minnesota, che era quello che doveva trovare i lavori a quelli che prendevano cittadinanza. Cioè, si vede che è una buona prassi di questo governo tenere all'estero a fare i loro affari quelli che profumatamente paghiamo per servire. Ma quello è gratis. Ma secondo te, posso fare una domanda? Ma secondo te non c'è? Aspetta un attimo. Secondo come te non si c'è? Diventa primate, metropolita, arcivescovo, Alessandro I? No, chiedo. Se devo sentire ancora queste cazzate di Parenzo, come si diventa? Allora, aspetta, zitto. Se non mi togli dalle balle questo studente fuori corso, querulo e fesso, me ne vado. Allora, voglio capire una cosa. Secondo te c'è un odore di massoneria da qualche parte? Questo voglio ma dire. Non lo so, sinceramente, guarda, la massoneria non c'è, non odore di primate. Non nel senso che ci sono tante massonerie, ci sono tante logge, ci sono tante obbedienze e quindi ci sono tante massonerie quanti partiti o o ideologie. Quindi io credo che sicuramente ci siano conventicoli importanti che decidono sulle sorti delle finanze, delle grandi questioni dell'umanità, però definire la massoneria mi sembra... No, per esempio il vaccino, tu te lo faresti? Dire, il vaccino... Quello che ho conosciuto io della massoneria italiana, essendo stato un autorevole membro del Grande Oriente d'Italia, posso dirti che mi sembra che la massoneria del Grande Oriente d'Italia, quella ufficiale, quella che si conosce, sia molto debole in questo momento. Anzi, ma voglio capire una cosa. Ma scusami, ma è vero che Meluzzi ha twittato... No, scusami, questo è importante. Ma è vero che Meluzzi, mi risulta che il profilo ufficiale del Pope Meluzzi abbia twittato, questo è vero, andate a verificarlo. Il Pope qui, l'arcivescovo della chiesa, ha twittato una porcheria assoluta. Ha twittato la Bill e Melinda Gates Foundation, peraltro scrivendo Center for Global Human Population Reduction. Vuoi che ti rispondi o ti rispondo? Anche con se devo sentire hai messo questo fesso, me ne vado. Una minchia, hai twittato una minchiata propagandistica di cui ti devi vergognare. Andate a vedere il profilo di questo Pope impostore. Pope impostore. Pope impostore. Pope impostore. Autocefalo. Pope autocefalo. Pope autocefalo. Pope autocefalo impostore. Pope autocefalo. Pope autocefalo. Alessandro Primo. Alessandro Primo impostore. Alessandro Primo Pope impostore. Pope impostore Alessandro Primo. Andate a vedere che cosa ha twittato questo Pope impostore Alessandro Primo autocefalo. Autocefalo. Autocefalo. Autocefalo. Luciano, arrivederci. Grazie, che non chiamate più perché no. Sono programmi inutili. Fatti così sono ridicoli. Inutili me ne vado. Abbiamo parlato mille volte, dai. Ma come si fa con questo? È che insiste. Insiste su questa cosa qua. Ma come fai a sopportarlo? Faccio a sopportarlo io e ancora espormi a questo ridicolo di questo poveraccio? Ad autoproclamarsi Pope. Ma come si fa ad autoproclamarsi autocefalo Pope Alessandro Primo di sta minchia? Ma come si fa? Che la zanzara di Cruciani. Per favore, ridateci la Santa Messa. Vi supplichiamo, ridateci la Santa Messa. Ridateci la cosa più cara che abbiamo. L'unica ragione della nostra speranza. Pronto? Guarda, ma vattene a piangole, guarda, a te grindri dici, tu vedi clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanché, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanché, piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanché. Una vergogna. Una vergogna. Una vergogna. Eccolo. Voi quella signora lì che si ingazza con l'Inps, ladri e quant'altro, la dovreste soltanto mangiare, perché quella veramente ha espresso il principio di tutti. Quella è una povera lavoratrice che deve guadagnare e deve andare a lavorare, adeguandosi alle prescrizioni, ma deve lavorare. Non è che non fa un cazzo come fate voi, Parenzo, Cruciani magari mi sta più simpatico, ma allo stesso modo a fare radio, sta tranquilli, a scherzare e vi pagano bei soldoni. Quelli devono andare, devono aprire un negozio, devono avere a che fare con clienti e devono guadagnare in questo modo. Quindi non fate tanti superiori, non si può, lo dice quel coglione dall'alto del suo terrazzo di merda che lo pagano giusto per dire cazzate in televisione, ma vaffanculo, vai, è bello fare la morale dall'alto dei propri privilegi del cazzo. Cruciani, finalmente una bella notizia, ti sono scoppiate le emorroidi, che sono 3 giorni che fai la trasmissione in piedi. Ma non è finalmente questo. Almeno una buona notizia ogni tanto. Ma perché? Ma non è questo. Pausa pranzo, vado dalla fidanzata che abita coi genitori, loro escono, 5 minuti per buttare lo sporco e fanno il giro del palazzo. Lei mi dice voglio scopare, iniziamo a scopare. Allora? Io non riesco a venire. Trauma. Dopo 2 mesi senza, nemmeno mi sono liberato. Franco, con i tatuaggi in fascia, ma chi ha invitato? Ma che ce l'ha con me? Ma Pippo Franco col pitbull, ma chi ha invitato a casa mia? No, no, io Pippo e basta, quale Pippo Franco? Ah, senza Pippo Franco. Oggi senza Franco, solo Pippo. David, Natania, da casa Parenzo. Io potevo essere stipendiata. Incredibile quello che accade in questa trasmissione. Sei incredibile perché mi hai lasciato solo e non gli hai rinfacciato una cosa che giustamente mi hanno segnalato e che mi era sfuggita, sì. Quindi onore al merito, che questa, che questo signor Meluzzi, che si incazza perché lo chiamo Pope, ma lui che si è autodefinito, ma sembra che l'abbia chiamato io, della chiesa autocefala Alessandro I, ha pubblicato sul suo Twitter una fake news su Bill Gates, perché ha contraffatto. Come no? Ma non gliel'hai detto? No, spieghiamo, perché questa è radio, non TV. Lui ha contraffatto la foto della fondazione di Bill Gates, scrivendo sopra, sì, l'avrà presa lui da internet, non lo so se l'ha contraffatta lui o l'avrà presa da qualche sito complottista, e l'ha pubblicata, no? Allora? E ha contraffatto, ha preso una cosa, Center for Global Human Population Reduction, non c'è mai stata nessuna di queste scritte sulla fondazione Bill Gates. Lui l'ha presa e l'ha pubblicata, non gliel'hai detto, lo hai lasciato dire il suo delirio come fosse un ospite normale, come fosse una persona normale. Wolfgang, ma uno che Genova. Diffonde, ecco, lui passa un'altra Wolfgang chiamata e lasci che mi attacchi a me, mi ha attaccato per un'ora a me, quando io semplicemente studente ho detto fuori che corso, lui è un pope. Studente fuori no, corso, studente ma sì, fuori ma quello corso. Va benissimo, ma chi se ne frega, però lui è oggettivamente un pope invece, lui è oggettivamente un pope, o no? Fammi sentire che cos'è lui, cosa si è autodefinito. Wolfgang. Vediamo chi ha ragione. No, prima di Wolfgang, per cortesia, guarda che ti blocco la trasmissione, guarda che ti blocco. Ma l'hai già detto 40 volte. Vediamo chi ha ragione e chi ha torto tra me e lui. No, zitto, fammi sentire come lui si è autodefinito. Questa non è fake, è lui. Fatemelo sentire, perché guarda che ti boicotto io. Ti spacco la trasmissione. Adesso, no, perché vediamo chi dice balle tra me e lui. Ma questo fammi quando pregava a confusare, o quando pregava a confusare. Sì. No, il pope autocefalo di sta chiesa. Fammi sentire, lui si è autodefinito così e poi si incazza con me. Fallo sentire come prova documentale, perché guarda che ti spacco la trasmissione se lo fai sentire. Guarda che non andiamo avanti. Wolfgang Amadeus Mozart, non voglio sentirlo, voglio sentire un attimo l'audio. Io guarda che ti spacco la trasmissione, te la boicotto, io sto qui fino a domani mattina. Chi ha ragione tra noi due? Lui mi ha sputtanato, guardate chi ha ragione. Guarda che ti denuncio, ti spacco la trasmissione se non mi mandi Wolfgang, quell'audio, te la distruggo. Non voglio sentire Wolfgang, chiedo scusa a Wolfgang, lo sentiamo tra poco. Voglio sentire l'audio di Meluzzi che si autoproclama Pope, vediamo chi ha ragione. Guarda che ti spacco tutto, non vai avanti. Ma me lo fai io trovare l'audio giuro, in un attimo di pausa? Non c'è da trovare, non fare il golpista, non c'è, è tutto è tutto digitale. Non è facile. Ci io sono 100.000 file, basta mettere stronzate Meluzzi e vengono fuori tutte in archivio. Lo so come funziona, ti spacco la trasmissione. Aspetta. Wolfgang, ora non parla. Perché gli ascoltatori siete dei mestatori. Voglio sentire la voce di Meluzzi che Wolfgang, si autoproclama vescovo della chiesa Wolfgang. Autocefala Alessandro I di sta ceppa di minchia, perché l'ha detto lui, non io. Wolfgang. L'audio c'è e ce l'avete. Wolfgang, dimmi. Oh, ma guarda. Cucciani. Dimmi. Dimmi. Wolfgang, dimmi. Allora? Cruciani. Vabbè, ho capito Wolfgang. Cruciani, la terza allora, volta. Dai. Volevo dire, polemizzare sulle incitante cose. Vabbè, questo è ubriaco. Intanto abbiamo una classe politica demenziale. Sì, ma non si sente un cazzo, amico mio, Wolfgang. Non si sente una sega. Come non mi senti? No, tu sei anche Wolfgang, dovresti essere anche di origine tedesca, dunque le cose tecnologiche dovrebbero guarda anche... che ti scendo come è nato l'uovo la gallina. Sì, dimmi Wolfgang, cosa vuoi dire? Dimmi. che abbiamo una classe politica demenziale, perché invece di mettere dei professionisti, come ad esempio chi? Veronesi, che era professionista nella sanità. Ma Veronesi è morto, no? Amico mio, cioè, è morto. Vabbè, ho capito che è morto. Ho capito che devono mettere. È morta, purtroppo non è morto. Ha fatto le case chiuse, non è neanche aperto. Vabbè, questo che è ubriaco. Che io capisco. Che... basta, sì, vabbè, ciao Wolfgang. No, ma hai rotto i coglioni. Basta, ma hai rotto i coglioni. A questo punto, David, io adesso te lo trovo il file, non ti preoccupare. No, te lo trovo. No, io guarda che non ti mollo, hai sbagliato persona. L'abbiamo trovato? Non c'è ancora? Non c'è. Allora, non mandiamo. C'è. No, chiamiamo ma Vissani. Come non c'è? Chiamiamo Vissani che è incazzato per il ristorante chiuso. Tu devi far sentire chi è Meluzzi, perché non mi sono autoproclamato io, lui si è arrabbiato perché gli ho ricordato che lui si è autoproclamato pope della chiesa autocefala di non so che cosa, ma lo ha detto lui, Vissani. E lui Gianfranco? Sì. Come andiamo? Oh, chef grandissimo. Come andiamo? C'è pure il signor Parenzo qui, signor Parenzo. Eccoci qua, caro, eccoci qua. C'è il paraculo di turno? Eccolo qua. C'è lo chef sovranista anche? Ce l'abbiamo? Mandalo subito a fare il culo, Gianfranco. Chef sovranista? Ma incredibile, gli voglio anche bene, Gianfranco. Gli voglio bene, quasi come fosse un vecchio zio porco. No, lui sta a Roma. Sai lo zio porco? Lo zio porco, hai presente lo zio porco? Ma che c'entra? Ecco, io gli voglio bene. Gli voglio bene, quasi come fosse un... Tutti nella famiglia hanno uno zio porco. Ecco, come fosse uno zio porco, gli voglio bene. Però rimane uno chef sovranista. Ma Camillo Langone, l'hai letto l'articolo? Ma che c'entra adesso l'articolo di Camillo Langone? Chi se ne frega? È morto, dai, Langone, dai, che non fa ascolto. Ho detto, mi manca la gnocca. Ti manca la gnocca, sul serio? Sì. Ma come fa? Lo chef è ritornato. Tra l'altro, è ritornato a febbraio a riaprire, come dire, la tua bottega, e adesso hai dovuto subito chiudere. È vero. Ma scusa, come cazzo fai senza gnocca? Come stai facendo? Niente, mi faccio 5 contro 1. Cioè, insomma, quante te ne fai al giorno? Cosa vuol dire 5 contro? Oh mamma, che volgarità! Adesso ho capito adesso. Oh mamma, Quante te ne fai al giorno? Ma non so, secondo, cambio, ma adesso ci sono le videochiamate, cambia. Ah, ho capito, allora adesso hai il tuo parco signorine con le videochiamate. È vero, quante, sono tutte... sono tutte che? Sono tutte là, sono tutte calde in questo periodo. Cioè, ti metti là nella tua stanza a fare una videochiamata e via. È vero. Una roba incredibile, guarda. A meno che non hai fatto venire qualcuna lì al ristorante. Sì, ogni tanto le faccio arrivare. Roba incredibile. Cioè, mamma mia. Scusami un attimo, ma mi dicono qua, leggo che sei incazzato nero col governo. Io adesso sono il portavoce di 300.000 ristoranti in Italia. Addirittura? Sì, sono 350.000 che non ci sono i soldi per il governo, mi sta bene. Però ci devo venire incontro su tutto. Cioè, non è che voi pensate che il primo luglio col plexiglass, mascherine, non mascherine... con queste cazzate del delivery che sembrano, io lo chiamo sport, lo chiamo delivery, però cioè, non deve superare il freddo tot, non deve andare sotto il caldo lo stesso, cioè mi sembra ragazzi... No, ma non si può fare così, ma così non si può aprire, è chiaro che non si può aprire così. E allora, ti voglio dire, aprite quando volete, noi stiamo bene a casa nostra, però ricordate che il 13% del PIL italiano è il turismo, sono ristoranti, sono pizzerie, pasticcerie, bar. Non è che voi pensate che il primo giugno noi apriamo ristoranti e sono pieni. Di che pieni? Di che? Di cinghiali, come ce l'ho io. Io faccio il delivery. Ma tu potrai aprire, scusami Gianfranchino, ma la cosa tu potrai riaprire che... perché hai un ristorante con pochi posti, siccome è un posto per milionari quello, per gente ricca. Ma che ricca, milionari, ma che cazzo? Hai pochi tavoli... Ma tu sei nato pidoccio e morirai pidoccio, non devi spostare. Io pago, io ogni volta che vengo da te pago, chi non paga è Cruciani. Io tutte le volte che sono venuto ho sempre pagato agli mortacci. amici miei, ha ragione, però non paghi tu il Parenzo, paga i tuoi amici. Esatto. Vengono i miei amici, certo, quello, cioè, quello paga i tuoi amici, c'ha ragione lui. Dai. Non c'entra, sono andato una volta da lui a cena con degli amici molto molto facoltosi, hanno pagato loro, ma questo ci mancherebbe altro, si chiama welfare questo. Faceva. La realtà, no, è questa, Gianfranco, che tu non è che puoi fare l'apertura per, con 20 coperti, cioè, perché altrimenti è meglio non aprire, no? Cioè, ma di che stiamo a parlare, dai? Ci hanno disdetto 6 matrimoni, 15 serate in giro per l'Italia sono saltate tutte. Quanti soldi hai perso? Hai fatto un calcolo di quanti soldi hai perso per adesso con sto Covid? 500.000 euro. Quanto? Ma no, ma un milione di euro. E poi, ascolta. No, ma quanti soldi hai perso concretamente, Gianfranco? Un milione di euro avrà perso, dai, te lo dico. Non lo so, Luca sa sti conti, io non lo so. Questi conti che arrivano adesso, sono quelli di settembre-ottobre, i soldi non ci sono. Dico, ma di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Hanno rotto i coglioni, hanno fatto un decreto parabanche. Vai all'attacco, chef, vai all'attacco. Ma no, ma hanno rotto i coglioni, vaffanculo, sti inglesi devono dare 250 miliardi per la Brexit, in Europa non ancora manco li hanno dati. La Germania, dopo tutto quel casino che ha fatto, in la seconda guerra mondiale, quanti soldi ha dato? Solamente noi paghiamo. La Germania. Di birra. Ma che c'entra nella roba della Germania? Cosa c'entra adesso? La Germania. La seconda guerra mondiale, quando ha fatto tutto quel casino. Ho capito, ma la Germania quanto contribuisce al bilancio dell'Unione Europea? È il paese maggior contributore d'Europa. Ma perché glielo permettiamo noi, Parenzo? Cazzo! Io ho 20 Mercedes qua davanti. Glielo permettiamo noi. Come 20? Che lo setto io, solamente io. E poi si lamenta, scusa, ma non capisco, hai 7-8% se ti lamenti, ma che roba è, ragazzi? Ma mandalo a fanculo, Gianfra, dai, su. Ma come mandalo a fanculo? Già 7-8 è incredibile, è sempre dalla parte dei potenti, il contrario, sono contro le banche in questo caso, che devono pagare. Che ne pensi di Conte? Dammi un giudizio su Conte. Un po' di soldi israeliani. Che quelli sono veramente giusto. Che voi ce l'avete tanti, vaffanculo, che ci fate? Dammi un giudizio su Conte. Conte è andato a Bergamo, ha detto che è scappato via, sennò lo massacravano. Raccontaci una barzelletta per chiudere, una barzellettina per chiudere. No, dai, ma per quale chiudere? Davide, mi porti qua tua moglie che è bellissima. Dobbiamo chiudere. Ma non te la porterei mai. Scusami, sai che sai che se c'hai una tua amica, una persona, una che ti devi trombare fuori dalla regione, non puoi fare un cazzo dopo il 4 giugno? Sì, il 4 maggio. Ho già fatto, sono partito, sono andato a trombare, c'ho tesserino al giornalista che mi frega a me. Ma come? Ma scusami, cazzo, col tesserino da giornalista sei andato a trombare fuori dall'Umbria, pure de... sono andato a trombare. Vabbè, ciao Gianfranco. Ma non puoi dirlo così, ciao. È una vergogna, scusa. Ciao Gianfranco. Ma come una vergogna? Ascolta, veniamo a casa tua, Parenzo, che voglio vedere tua moglie, che guarda, è bellissima. Cazzo, come sta arrabbiato? Ma io posso dire, ma di che cosa stiamo parlando? Ciao Gianfranco. È impazzito. Ciao. Chiesa ortodossa italiana autocefala antico orientale. Celebriamo la consacrazione dell'Italia al cuore immacolato di Maria. Ecco appunto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel momento in cui tutto il mondo vive la paura della pandemia, indotta dal maleficio del coronavirus, che strappa la vita a migliaia di esseri umani, tutti figli di Dio. Noi, Alessandro I, secolo Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale, alla presenza del Santo Sinodo, di tutte le gerarchie della Chiesa e del suo popolo, solennemente consacriamo l'Italia al cuore immacolato della Santa Vergine Maria, Madre di Dio. Mamma mia. Niente, Thomas da Medjugorje, onore a te e alla Vergine. Ma perché? È così. E non lo volevate far sentire. Ma chi non lo voleva far sentire? Non lo trovavamo. Bisogna trovare i file. Non è possibile trovare. Non c'è complotto. È tutto digitalizzato. Si trova tutto. Non dire balle. Si trova tutto. Fai risentire lì il pezzo in cui si autoproclama autocefalo Alessandro I al secolo Alessandro Meluzzi. Io David Parenzo, primate della Chiesa del Parenzo II, al secolo David Parenzo, ti mando a fare in culo, hai capito? Ballista. Ma uno non si può autoproclamare pope, non ho capito. Chiesa ortodossa no. Italiana, ecco, autocefala anticorientale. Dimmi se è una cosa normale questa, dimmi tu. Celebriamo la consacrazione dell'Italia. Scusa, celebriamo chi? Sembra una segreteria telefonica questa cosa qua all'inizio. Sì, tra l'altro, sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo d'accordo. Nel momento in cui tutto il mondo vive la paura della pandemia, indotta dal maleficio del coronavirus, sì, che strappa la vita a migliaia di esseri umani, tutti i figli di Dio. Attenti qui, aspetta, attenzione noi, a tutti. Noi, Alessandro I. Chi? Beh, al secolo noi. Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa ortodossa italiana autocefala antico orientale, alla presenza del qua. Santo Sinodo, basta di questo. Tutte le gerarchie della Chiesa. Mi basterebbe isolare questo. Noi, Alessandro Meluzzi. Noi chi? Noi è plurale. Alessandro Meluzzi è singolare. Intanto, ragazzi, l'ingegner Negri se la prende con noi. Io non capisco perché. Ma non è che bisogno c'è? Che bisogno c'è? L'ingegner Negri a Meluzzi. Ma no, ma che bisogno c'è? Ma l'ingegner Negri, io sono d'accordo su molte cose, sono d'accordo con lei. Nulla. Perché mi deve rompere i coglioni adesso? Non hai detto nulla, Meluzzi. Niente, niente. Zitto sei stato, zitto, zitto. Parlare è fondamentale. Non lo capite? Parlare è stato fondamentale. Ma io addirittura. Io addirittura vengo preso in giro da quei due cretini, testa di cazzi, di quella telezecca lì, Radio Zecca, come si chiama? Cos'è? Siete due teste di cazzo, è chiaro? Ma con chi ce l'ha? È chiaro, ve lo dico in maniera plateale. Perché andate a riprendere delle frasi e le astrete dal contesto. Ma ho capito, ma tu fai dei video, fai dei video di 20 minuti. Ma che uno può mettere l'integrale di 20 minuti, Neri? Dai, ma su. Dai, su. E ci avrebbe ragione questo pure, ma. Voi siete dei servi, dei servi. Fate parte del canale unico dominante. Non avete il coraggio di ribellarvi. Perché siete pagati per essere servi, perché sennò vi cacciano via, non avete più lo stipendiuccio quotidiano e allora dovete vivere prendendo in giro me. Bene, fate pure. Ora noi abbiamo questa gente che ha affermato questo, che ci dice no, dovete stare a casa perché sennò se voi uscite, se il 4 di maggio escono tutti, entro il 10 giugno le terapie intensive saranno al collasso. Su che base? Su che base affermate questo? Su che base? Ve lo inventate? Ve lo inventate perché volete tenere il popolo italiano, lo volete tenere sotto scacco. Questo paese è già distrutto. Stanno chiudendo tutti, tutti. Fra poco non verranno più pagati gli stipendi, neanche le pensioni. E allora noi continuiamo a dire no, no, no, non chiudiamo, non riapriamo, riapertura. Noi abbiamo al governo una banda di criminali. Una banda di criminali. Noi, Alessandro I. Appunto, esatto. Noi, Alessandro I. Esatto. È credibile secondo voi? È veramente incredibile questo autocefalo qua che ha pubblicato notizie false sul suo profilo su Bill Gates, ma camuffando, cambiando la dicitura della fondazione di Bill Gates perché l'ha camuffata o l'ha ritweetata da qualcun altro. Tu sai, caro David, e tu non gli hai detto nulla. Tu sai, caro David, che il terrorismo che ci hanno fatto ieri dicendo che se ci fosse una riapertura totale e avremo 151.000 persone in terapia intensiva a giugno era basata probabilmente su dati completamente falsi da parte, sì, questo l'ho visto, certo. Completamente falsi, ci hanno terrorizzato con questa cosa qua. Poi uno gli viene voglia di dare ragione appunto a questi complottisti eccetera, ci hanno terrorizzato con un dato che molto probabilmente è falso, finto, falso, chiaro? Falso. Noi, Alessandro I. Vabbè, adesso che c'entra? Allora ragazzi, però la situazione delle prostitute non va sottovalutata. Ci sono tantissime prostitute che hanno bisogno, che dovrebbero chiedere dei soldi allo Stato, secondo me, perché la professione va riconosciuta. Moltissime prostitute depresse. Depresse perché non arrivano i soldi, depresse perché non possono fare il loro lavoro. Ragazzi, ma è un problema serio, nessuno se ne fa carico. Noi ce ne facciamo carico, David. Noi ce ne facciamo carico. Io me ne faccio carico, l'unico, forse insieme ad altri amici, ce ne facciamo carico. Ovviamente non possiamo rispondere economicamente, mi sembra. Non possiamo mettere sul piatto il denaro. Questo no. Però io me ne faccio carico di questo problema. Parlo di una situazione drammatica. Di una situazione. Allora, abbiamo con noi la mitologica Susanna. Ciao Susanna, come stai? Ciao tesoro! Bene, come quando ti sento, quando ti sento sono sempre contento. Allora, però mi scrivi dei messaggi drammatici di depressione. Allora, a che punto è la depressione? Come si sviluppa? A che punto ciao, è la cara, depressione? Buonasera, buonasera. Ciao. Dimmi, Susanna. Ma depressione totale, perché dal 16 febbraio, da quando ho avuto l'incidente, poi dopo quando sono guarita un po' sono tornata lì, ma poi è scoppiato il virus e quindi sono andata via subito. E niente, no, come si fa a vivere così? È tutto finito. Cioè, io andavo lì, mi aspettavano tutti, ero la regina della Salaria, venivano tantissime persone, ero felice, scopavo tutto il giorno, facevo felice tutti. Sì. Ero felice io tantissimo perché io c'ho questo dono che ti piace scopare, che ti piace scopare, diciamo la verità. Sì, io ho questo dono. Cioè ti piace scopare, ti piace prendere scopare, vabbè, mi piace i cazzi, mi piace che mi sbattono i cazzi in faccia, mi piace prendere chi se ne frega, i cazzi, ma che roba è? Ma è così, mi piace godere, mi piace che io lavoravo sul ma chi se ne frega, però, scusa. E mi prendevano a destra, a sinistra. Hai capito, ma una che passa così, naturalmente arriva appunto in quello un po' più 10 anni così. Non può più fare niente, ti è venuta la depressione, immagino, no? Sì, dopo 10 anni così, con clienti che ti tornano anche dopo 10 anni, che sanno quanto godi, stanno bene e come li fai stare, e è finito tutto così. Ma i soldi adesso, sei riuscito a fare qualcosa? I soldi sono fermi, perché adesso io non andando più là. No, d'accordo, non ci sono, però hai fatto qualcosa in questo periodo oppure no? Sì, sei riuscito? Sì, riesco a fare una persona a settimana al massimo. E dov'hai? Dov'hai? Cioè, per telefono, ti chiamano, ti cercano? Mi chiamano, però solamente persone che vado a casa loro, perché dove cazzo vai? Gli alberghi sono chiusi. Sì, beh certo. In strada non si può fare più niente. Per cui vai io tra. A casa non posso perché non sto sola, c'ho mia mamma. Per cui vai a casa di questi clienti, che cosa che non si dovrebbe neppure fare, ma chi se ne frega, naturalmente lo fanno, ce l'hanno raccontato tantissime prostitute. Vai a casa di questi clienti e dunque praticamente una volta a settimana non incassi un cazzo, diciamo la verità. Niente, che vuoi incassare una volta a settimana un cliente? Quindi cioè adesso a livello di guadagno è fermo. Cioè, io i soldi veri li ho fatti sulla strada, lì sulla Salaria, poi tu mi hai fatto diventare una star, quindi la realtà è la realtà è adesso qua giro per il quartiere, sono una star io, mi fermano, tu sei quella da Zanzara, ciao! Allora ragazzi, la realtà è questa, che Susanna, la prostituta della Salaria, era la regina delle troie di Roma, diciamola tutta. Tu non hai neanche dato, neanche un euro le hai dato tu alla signora, no, ma che come no, ma chi ho contribuito? Ma che scherzi, allora, io ho dato i soldi a un certo punto. Scusami Davide, sì, allora sì, lei è stato un amore, Susanna era quel regalo con tutto il cuore. Allora, bellissimo, Susanna ci mancherebbe, era la regina delle troie di Roma, diciamo la verità. Sì. Era la regina della Salaria, delle troie di Roma, no, non lo so, è una che faceva impazzire la mia età, faceva, però mi cercavano tutti. Faceva impazzire i clienti. Tra l'altro mi ha raccontato pure di un cliente di colore, diciamo la verità, sì, calciatore di Serie A, come no? Un calciatore di Serie A di colore che veniva da te, che succedeva? È venuto per anni, perché gli piaceva quando mi sfondava, che diceva tu a te piace proprio tanto, e io rimanevo sorpresa perché questi qua c'hanno delle donne bellissime, quindi perché doveva venire da me sulla Salaria? Sì, su una baracchetta, dentro una baracchetta, perché diciamo, dice no? Come prendi il cazzo te, non lo prende nessuna, capito Parenzo? Ecco. Questa è la realtà, la realtà. Sì, sì, ascolto, vi ascolto con la realtà, vi ascolto con che pisello aveva, diciamo, questo che pisello aveva questo black, diciamo, grande. Allora ragazzi, la vita di Susanna, guarda, è stata anche l'ultima scopata che ho fatto sulla Salaria, devo dire la verità. Ah, l'ultima scopata che ho fatto sulla Salaria, sì, è stato questo calciatore. Lui, guarda, ma attualmente è in Serie A o no? No. Sì, sì, sempre. Beh, non è che uno che sì, da dire. Beh, non si può dire. Vabbè, comunque. Vabbè. Ma perché una notizia così ho eclatante? Non riesco a capire. Grande, nel senso, l'ultima volta, però risale a fine febbraio. A fine febbraio. Cioè. Io voglio dire una cosa. Ma tu ti rendi conto, bestia come me, nata per scopare, no? Come me. Sì, che, sì. Come fa a vivere così adesso, no? Ma mi di testa? La depressione, sono morta. Cioè, a me mi sveglio la notte, ho gli incubi. Cioè, mi si gonfia il clitoride come una bambina piccola, cioè. Ho capito, Parenzo, cioè, ci sono delle persone che sono nate per fare questo mestiere. Per no, fare... sono proprio allibito da questa conversazione. No, sono mi allibito. Viene il clitoride gonfio, perché ovviamente non facendo sesso, no? Sì. Capito, io non sono mai stata così. Ma che cosa fai per ovviare, che diciamo? Fare, che cosa fai? Il rubinetto del bidet nel culo. Come il rubinetto? E mi sembra tutto eccessivo oggi. Mi sembra davvero tutto eccessivo oggi. Comunque, vabbè, e ride, e ridono. Il rubinetto, e i due ragazzini ridono. Mi faccio i lavaggi anali, bellissimo. Ah. Mamma mia. L'hai mai fatto i lavaggi anali, David? L'hai mai fatto? Porcheria. No, no, no, vedi, l'abbiamo no, messa. Grazie. Com'è la canzone quella lì? No, no, che mi facevo su quel tavolo, guarda, Parenzo. Che miseria. Ognuno rimpiange. Ma a me non interessano queste cose. Ma non mi interessano me questi dettagli. Mi fa anche schifo. Ma la signora squirta, la signora squirta. Non riesco a intervenire su questa porcheria. Allora, però voglio dire una cosa. Provate, però scusami, scusami, va bene, questo è un altro discorso. Però scusami, amici. Susanna, posso dirti una cosa? Adesso tu stai ridendo con noi, però ogni tanto mi mandi dei messaggi. Ma tu mi dai la vita, Cruciano. Ecco, appunto, tu però queste telefonate mi ridai la vita, perché io sto sotto un treno. Allora, chiamate, cioè, io vuoi sapere le mie giornate, faccio la spesa, cucino, esco col cane, assisto, vabbè, mia mamma tutto il giorno, perché è vita normale come tutti noi. È vita normale come tutti noi. Con tutto il cuore, poi voglio bene. Ecco, queste sono le mie giornate, cioè io faccio la spesa, cucino, poi faccio, pulisco la cucina, poi mi sto sul divano, scoreggio, perché ovviamente uno mangia troppo, quindi la pancia si gonfia di gas, quindi scoreggia libera, ma è una cosa schifosa, però. Prendo il cane, esco col mamma cane, mia, e mi faccio ma è una porcheria, ma è una schifezza assoluta, però, scusate se ve lo dico. C'è il brasiliano, c'è il brasiliano che... signor brasiliano che sta sentendo e si sta pisciando sotto dalle risate, il signor brasiliano. Ho capito, ma non è una bella compagnia ormai, stai qua, me, tutto sei tutto. Un grande amico suo che mi saluta la prostituta sempre. È il brasiliano, pensate. Ciao, che vita, Susi, ragazzi. Ciao, oh, mi raccomando, mi voglio un bene immenso, scappa, grazie, dalla depressione, mi raccomando, scappa, che fra poco si dalla depressione, grazie, mi raccomando, che fra un po' si ritorna per strada, vai, mamma vai, mia, avanti tutta. Porca ciao, miseria! Ciao, ciao. Mi sono depresso io, stavolta. Ciao, ciao. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? Sì, mi dica! La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? No. Dimmelo subito, no? No. Dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo, mi stai suggerendo. Tu mi dici di no, dimmi di sì, dimmi di sì che non lo faccio, dimmi di sì, dimmi di sì. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscì, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il signor Parenzo. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. No, no, no, no, no, no, grazie. È normale, è normale. Sto sentendo il podcast, ma Cruciani, ma tu lo sai di che colore è il portafoglio tuo? Lo sai com'è fatto? L'hai preso mai in mano? Secondo me tu non l'hai cacciato mai una lira in vita tua, quindi non l'hai mai preso in mano il portafoglio. Con tutto quello che guadagni, non compri manco le felpe a tua figlia, ma che cazzo ci farai con questi soldi? O tu cazzo te li vuoi portare? Che vergogna, guarda. Certo che io non ho mai visto un uomo del popolo arrivare in redazione con Land Rover, eh? Cruciani, puoi dicere tanto a Parenzo. Mi piace scopare, mi piace i cazzi, mi piace che mi sbattono i cazzi in faccia, mi piace prendere i cazzi e io mi piace godere, mi piace che io lavoravo su un tavolino e mi prendevano a destra, a sinistra, sopra, sotto. Mi metto il rubinetto del bidone nel culo. e mi faccio la vaginale. Alfonso dice ti cago nel salotto. Un signore Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo. Però scusa un attimo David, adesso andando a vedere bene, andando a sentire bene, qual è la differenza che c'è nella comunicazione tra Susanna la puttana della Salaria e le dirette Instagram o non so che cazzo di Salvini? Quando quello dice, io racconta che un ascoltatore, uno che stava lì collegato con lui, dice la canna te la infilo nel culo, infilatela nel culo. Cioè è esattamente la stessa cosa. Sono lo specchio drammatico di questi tempi tristi, amico caro. Sono lo e tu ne sei il più grande menestrello, il più grande cantore, diciamo, il più grande cantore, menestrello, il menestrello proprio, sì, cantore, d'accordo, cantore già troppo, sei qui, menestrello, menestrello. Mi piace scopare, mi piace i gatti, mi piace che il nostro amico consigliere comunale Trieste Fabio Tujak oggi ha detto una cosa abbastanza incredibile, ha detto: da questa dura situazione così stressante credo che si salveranno quelli che reciteranno il rosario avendo un benessere spirituale, ma anche quelli che avranno una sana attività sessuale, sostiene il signor Tuia. Dovevo portare la mozione per multare le mogli con il mal di testa e gli uomini troppo distratti come previsto dalla Bibbia. Cioè lui vorrebbe, nelle sue intenzioni ovviamente, multare le mogli con il mal di testa. Ma questo è proprio un instabile. Multare le mogli con il mal di testa, che vuol dire sostanzialmente che se la moglie dice che non ci sta, diciamo, dicendo come scusa proprio il mal di testa, va multata, secondo lui. Multa. Poi dice anche gli uomini troppo distratti, eccetera. Una roba pazzesca. Che voglia di cazzo, mamma mia. Vabbè, questo sono sti commenti. Ma perché ci sono sti commenti ogni tanto che Silvia da Vicenza, trasmissione? Silvia da Vicenza. Ciao Giuseppe, dimmi, finalmente non la faccio più. Ora devo dire. Dimmi Silvia, dimmi. Ciao non Giuseppe, posso più, shalom, posso. Caro David. Ancora no, niente. Shalom. Buonasera, sì. No, dopo la virente parentesi pontificia del Pope Meluzzi, volevo spezzare una lancia a favore di David come maggioranza silenziosa parenziana e rivendicare il suo diritto a collegarsi dal suo terrazzo ai prati, perché Giuseppe, non ti ricordi che il caro Di Maio aveva abolito la povertà? Tu vai in trasmissione con Range Rover e quindi ognuno ragazzi, è libero di ma fare non è quel anche cavolo. Questa è una, ma certo, ma non c'è dubbio, infatti chi se ne frega, potrò mettere in evidenza il fatto che uno è ospite di una trasmissione da un lussuoso terrazzo nel quartiere Prati, scusa, mentre parrucchieri e baristi stanno morendo di fame, potrò mettere in evidenza questa contraddizione, come Marione Giordano, come Marione Giordano dice che ci sono i parrucchieri in catene, incatenati davanti ai loro negozi perché non possono aprire, mentre boss mafiosi vengono scarcerati, dunque vengono scatenati. Potrò fare questo tipo di paragoni? Potrò per o no? Per carità. E allora, no, comunque, David mi ricorda, mi rappresenta un po' l'allegoria plastica di quella della battuta di Arcuri, del commissario Arcuri di ieri sera, che diceva che agli imprenditori che praticamente contestavano il fatto che le mascherine non mascherine, dovevano esatto. Del prezzo, questa cosa molto dal governo venezuelano, devo dire. Sì, ma infatti è ridicola questa cosa, comunque dimmi. Del allora, costo di 0,50 le mascherine. La catena di supermercati Crai ha contestato, vabbè. Comunque questi liberisti con il si possono umano, imporre i prezzi, a meno che tu non paghi, allora imponi un prezzo, però paghi la differenza, dai. E Arcuri li ha definiti i liberisti sul divano col cocktail in mano, esatto. Bravo, appunto, sì, esatto, che se i liberisti sono con il cocktail in mano, io e David, vabbè, voglio Silvia, dire, allora facciamo un happy hour fantagruetico. Ma no, certo, niente, volevo dire, ma che Arcuri vada a fare questa battuta agli imprenditori delle piccole e medie imprese, magari del distretto conciario del nord-est, che magari hanno riconvertito tutta la loro produzione e naturalmente non possono vendere le cose al prezzo imposto dallo Stato, a 50 centesimi, perché hanno le bollette da pagare, hanno un affitto da pagare, hanno dei dipendenti da pagare, che lo Stato paghi se vuole fare le mascherine di Stato, le paghi lo Stato senza rompere troppi coglioni. Però, ciao. Però alcune erano arrivate a costare cifre spaziali. Ciao Silvio, ciao carissimi. Ciao cari. Noi Alessandro Primo. Ecco pronto. Poi? Allora ragazzi, nei giorni scorsi Emilione Fede ha detto una cosa contro Mario Giordano. Dice: non mi piace Mario Giordano perché urla troppo, perché grida troppo, si mette di fronte alla telecamera, grida, eccetera. Io lo vorrei chiamare perché facendo finta di essere uno delle brigate di Mario Giordano Fans Club. Che dici? Mario Giordano Fans Club, caro Davide. Povero, che dici? Poverino. Ma no, io non posso essere di quel brigata lì, quindi non... Ma io sono delle... Mario Giordano, come si permette di attaccare Marione Giordano? Come si permette di attaccare Marione Giordano? Pronto? Mario Giordano Fans Club. Cosa? Mario Giordano Fans Club. Scusa, vedo sconosciuto. Mario Giordano Fans Club, come si è permesso di insultare Mario Giordano? Mario Giordano Fan Club. Come si è permesso di insultare Mario Giordano? Ma vaffanculo, te, quel cornuto che non sei altro, figlio di troia, puttana bagascia. Come si è permesso di insultare Mario Giordano? Cornuto, cornutaccio. Mario, lecca culo a tradimento. Qui è Mario Giordano Fans Club. Come si è permesso di... Vai, mettici un dito in culo e godi. Come si è permesso di insultare Mario Giordano Fans Club? Il nostro comandante non urla. Non urla il nostro comandante. Fate una sega, ma che ti passa. Il nostro comandante non urla. Non urla il nostro comandante, capito? No, e non guarda neanche in telecamera. Non urla, Mario Giordano Fans Club. Qui Mario Giordano Fans Club, il nostro comandante non urla, non dice nulla. Metto sull'attenti, attenti, riposo, attenti. Come si permette di insultare Mario Giordano? Come si permette? Mario Giordano Fans Club. Senti, a me mi hanno già rotto i coglioni. Mario Giordano Fans Club. Si vergogni di quello che ha detto di Mario Giordano, grande comandante. Va bene. Si deve solo vergognare, grande conduttore, sì. Grande conduttore e comandante. Va bene. Altro che Emilio Fede. Certo. Hai ragione perfettamente, basta che adesso ti togliate il coglione e vai a fanculo. Altro che Emilio Fede, Emilio Fede col suo TG4, Mario Giordano è di un'altra classe, una spanna sopra. Voi siete riusciti a distruggere una cosa divertente, che è Instagram, con le vostre chiacchiere, le balle, il Monte Bianco, non il Monte Bianco, queste buffonate, Mario Giordano il comandante, cioè voi non pensate che... Una persona che si chiama Emilio Fede, che ha 89 anni, che ha inventato il vero giornalismo televisivo. Ma lei lo ha visto davanti alla telecamera, Mario Giordano, il nostro comandante? Lo ha mai visto davanti alla telecamera? Come declama? Lo ha mai visto? Non urla! Non urla! Come dice lei? Non urla! Sì, ieri mi ha fatto ridere veramente. Ieri l'ho invitato. Ma come si permette? Come si permette di attaccarlo? Come si permette di attaccarlo? Adesso ho capito, perché qualcun altro faceva lo scherzo. Ieri sera mi sono divertito a rifare la scena di Mario Giordano quando si avvicina e si abbinchia alla telecamera. E bravo, devo dire la verità, se cercava... Lo riconosca, lo riconosca e stia zitto, non parli male di Mario Giordano, lo riconosca e... Lo riconosca. Lo riconosco, è un vero comandante, devo dire la verità... Mi piange il cuore quando non lo vedo. Ecco, bene così. Vedo che queste telefonate servono. Come cazzo. Appena parto stasera parlo con lui. Ieri sera voglio divertire. Sapete, ha fatto veramente un colpaccio. Lo omaggi, lei deve omaggiare un giornalismo superiore a quello di Emilione Fede. Questa era dura da credere. E si ricordi Mario Giordano Fans Club. Che Dio. Genius in defense of imagination. Gianluca da Verona, vai Gianluca da Verona, vai. Salve. Vai, dimmi. Siamo messi male perché qua tutto chiuso. Sì. In Svizzera i doganieri non hanno neanche né la mascherina né i guanti, me lo spiegate? Ma che cazzo ne so, amico mio, c'è la Svizzera. Aperto tutto là, c'è aperto tutto. Non so, si è aperto tutto, sì, ma ci sono delle norme, sì, più tranne più. a Lugano no, ma mi hanno detto, ma in altri cantoni sì. Perché hanno un altro atteggiamento, l'atteggiamento che più contagio c'è, meglio perfetto. È, no? Beh, ma no, è vero non che è c'entra la radio di Confindustria? Allora è che c'entra questo? Sì, certo. E allora? Giustissimo. Dunque? Bene, giustissimo. Che è giusto anche che Fazio prenda 11 milioni di euro all'anno. Chi? 11 milioni non ci sono più però. Chi è che i milioni non ci sono più, Ma li ha presi l'anno scorso? No, i milioni di lire, lei è rimasto indietro, i milioni non ci sono. 11 milioni di euro. No, 11 milioni di euro non li ha presi all'anno. No. Non li ha presi 11 milioni di euro. Ma dove stanno 11 milioni di euro? 1 milione e 2 l'ha preso. Ma cosa c'entra con 11 milioni? Ha numeri all'otto. Li giochiamo sulla ruota di Napoli tutti. Ma non lo so, ha preso 1 milione e 2. Parenzo, lei è meglio che sta zitto perché veramente anche i cristiani che hanno detto fu crocifisso sotto Pilato, ma sono stati degli ebrei a crocifiggere un ebreo. Voi che scrivete che la guerra della Jugoslavia è cominciata nel 92, allora dovete spiegarmi perché io ma perché dal 91 qua tutti gli stabili dal 90 e 90 dovete spiegarmi capito, però il legame tra Fazio voi dovete spiegarmi perché dal 90 e la guerra in Jugoslavia sul confine del Friuli a sparare di là c'entra? Me lo spiegate e voi avete scritto che la guerra è iniziata nel 92, voi dite quello che volete voi, ma la verità la nascondete anche voi la vera verità, ma chi parla? Voi giornalisti tutti quanti, ma giornalisti di cosa? Quanti, ma su quale argomento? Quanti, lei che disturbo ha? Cosa le hanno diagnosticato? Che disturbo ha? Disturbo, quale? Quanti disturbi ha? Un italiano? Questo tutti. Merda di questo pianeta, ma che se si incazza ti fabbrica il tritolo in casa, va bene? No, questo non va bene. Chi è il soggetto? Rocco Casalino a Conte. Avete detto prima che sono tutti chiusi i parrucchieri. Come mai loro sono tutti belli? Vuol dire che il parrucchiere di Montecitorio i suoi 100.000 euro all'anno li prende ma sempre. Non c'è, non è quello. Tutti 100.000 euro all'anno. Cosa prendono. Non c'entra? Allora ma se non sono 100.000 sono il parrucchiere di Montecitorio è tutto chiuso. Posso dirti che la polemica questo frutto, questo bisogna dire grazie a te di questa roba qua. No, perché cioè, che c'è no, qua? C'è per colpa tua. Questi matti qua che chiamano che saranno quelli che ti distruggeranno, si stanno rivoltando contro anche a te questi. Ma voi avete come fatto caro armato? Una legge sull'apologia del fascismo e perché non avete fatto una legge sull'apologia del comunismo? Vabbè, ma questo è un altro argomento. Questo mette insieme, ha riassunto Renzi, tutti i temi della puntata. Tutti i temi riassunti alla fine. Ha riassunto tutti i temi il della puntata. Caro amico Renzi, aveva che c'entra detto Renzi che adesso? Se perdeva il referendum, ma cosa c'entra? Ma tutto insieme: la Jugoslavia, la guerra, bene. Il barbiere. Siccome che mungere la mucca italiana fa bene, fa il latte buono e continuano a mangiare. Bene. Ah sì, e Bibiano? Con le armi in mano. E Bibiano? Ma chi le armi in mano? Bibiano, ma io non ho figli, non me ne sporro un cazzo. No, non ho capito le armi in mano che questo cosa c'entra le armi pazzo, in mano. Le armi in mano sì, perché siamo stufi. No, le armi in mano perché tu hai armi in casa. Qua c'è la gente che sta morendo di fame. Sì, d'accordo, ma tu hai armi in casa? Lo facciamo arrestare, te lo dico io. Si può anche fabbricarle le armi. Ma questo qua è gravissimo però, questo è abbastanza grave, stai dicendo che si può uno si può fare arrestare che, guardate qua. Che in Svizzera sono tutti armati. Ma che c'è legalmente si però? Può fare arrestare. Legalmente, si può fare arrestare sto anche qua legalmente un'arma può essere anche una mano, lo sai? Vabbè, questo che un'arma c'entra? Può essere anche una mano. No, questo è un altro discorso. Tu parlavi di armi fabbricate, certamente non stai. Si può uccidere anche con le mani, Ma ho capito, ma chi vuoi uccidere tu? Ma chi vuoi uccidere? Hanno rotto i coglioni, tutti. Ma stai parlando di 40, come che c'entro io? Comunque l'argomento dei capelli, l'argomento, aspetta Gianluca, l'argomento dei capelli di Conte è un argomento utilizzato da Porro. L'argomento dei capelli, i parrucchieri ma chiusi, ma aspetta un attimo, stai zitto. Un argomento. Ma sì, infatti è una follia. È un sentiamo, argomento ce l'abbiamo Porro sciocco. Sui capelli, no? Così al volo, se ce l'abbiamo. Vai, fai sentire se c'è. Non c'è, vabbè, non c'è problema. Gianluca, ci sei o no? Sì, sono qua che ti ascolto. Mentre ti stai zitto, sono stato zitto. Ascolto io, Ma cosa cazzo sono è sta storia delle armi? Le armi cosa? Cosa vuoi fabbricare le armi? Ma cosa vuoi fabbricare? Vai a nanna, dai, vai a nanna, vecchio mio. Vai a nanna, dai, su, riposati. Beviti un tè caldo. Io faccio 20 ore di lavoro per stare in piedi per fare le allora, armi. Vai a nanna perché sei un po' agitato. Sono lì. Roma, sei troppo agitato, bene. Sei troppo. No, a Roma solo. La città non di Roma, Roma sta su solo coi ministeri. sei troppo agitato. Non c'è più lavoro a Roma. Ma è roba vecchia. Sei troppo agitato, roba vecchia. Aspetta, porro. Barbieri non possono tagliare fino al primo giugno. Tonino non può tagliare fino al primo giugno. Ma evidentemente Conte ci avrà qualche barbiere a Palazzo Chigi che gli mette il ciuffo apposta. Cosa che io invidio molto, perché io non posso fare. Ma lo farò perché io voglio andare. Guardate, il barbiere è sicuro che lo farò. Non è che ci sono dubbi. Cioè, mi arrestassero. Gianluca? Sì? Oh, sì. Sei sicuro che sei presente a te stesso, sì? Sì, ma se vuoi ti faccio anche l'esempio della Jugoslavia, adesso se vuoi parlo anche tranquillamente. No, la Jugoslavia no, amico mio, la Jugoslavia no. La Jugoslavia no, ti prego, basta. La Jugoslavia no? Non ne posso più, vai a Nanna un attimo. Vai a Nanna, che meglio. Ma cosa c'entra adesso? Ma cosa c'entra? Ma chi? L'avete fatta chi? Gli americani, perché gli dava fastidio la piccola russa. Troppo vicina gli americani, ragazzi. La verità sui libri non li scrivete mai. Non la scrivete mai, ragazzi. Mi sento male. Questa è la Zanzara e questo è lo specchio degli italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Noi, Alessandro Primo,